è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Everybody bunga bunga party. La Zanzara ribattezzata Bunga Bunga Party in queste sere. Collegamento con Siena, dove si trova David Parenzo in vacanza. Buonasera, buonasera a tutti voi. Sono in compagnia di una minore. E chi è? Una ragazzina, una minore. È tua figlia? È la nipote di Ahmadinejad. Perché ridi? No, beh. L'ho salvata. L'ho salvata da Ahmadinejad. È una minore. E quanti anni ha, scusa? Quanti anni hai, bimba? Cioè, non ha fatto 18 anni oggi, no? No, no, ne ha 3 e mezzo, credo. Quanti ne hai? Adesso 3 e mezzo, insomma. Tre e mezzo. 3 e mezzo, va bene. L'ha avuta Ahmadinejad in questi anni. Andiamo con colei che è diventata maggiorenne proprio oggi. La signorina Ruby, sentiamo. Ruby, via. Rapporto sessuale no, rapporto di amicizia neanche, e posso dire di essere stata come ad aver fatto un giro dal Caritas, quando ti danno la tua busta di spesa e ti fanno tornare in casa. Stesso giro che ho fatto anche da Silvio, mi ha aiutata, mi ha salvata da una situazione difficile, e li posso essere solo riconoscente, li voglio un bene dell'anima e ho di lui un ricordo bellissimo. Berlusconi come Caritas. Via. E va bene, aspettiamo. Everybody bunga bunga party. Voglio fare il carabiniere. Ho intenzione, come prima cosa, di prendere la mia vita in mano, di ricominciare da capo e di allontanarmi da tutta questa sporcizia, riprendere gli studi e finire gli studi, e spero di poter realizzare il mio sogno di fare il carabiniere, non il mondo dello spettacolo come tanti pensano. E poi scriverò un libro. Dirò io tutta la verità, ma la verità non uscirà né in televisione, né sui giornali, né tantomeno chiamerò a giornalisti o mi renderò ridicola come tante altre che hanno avuto questo caso come me. Io intendo semplicemente pubblicare un libro che scrivo da quando sono veramente più piccola di adesso, dove racconto tutta la verità sulla mia vita e dove è riportato anche il premier Silvio Berlusconi. Scusami, ma io credo che sia l'unico caso di una persona che vuole scrivere un libro sulla propria vita quando non ha compiuto nemmeno 18 anni, insomma. Meraviglioso. È fantastico. Silvio, gentiluomo, per chiudere con Ruby. Se potessi dire una cosa a Silvio, grazie di cuore, sei veramente un gentiluomo. Peccato che la gente non sa quello che sei veramente. E che naturalmente la gente, quando, come si dice, quando la gatta non arriva al pesce, dice che puzza, è normale, l'invidia, il pulpito di invidia fa fare tanto, tanta cattiveria. Diamoci forza e andiamo avanti, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, com'è la storia della gatta e del pesce, Parenzo? Quando la gatta, quando la gatta non arriva al pesce, non ho capito. No, adesso non ci sono, non credo ci sia subito doppi sensi. No, non è doppio senso. Immagine, no? Sì, dell'invidia. Per dire, no, quando il gatto che ha l'istinto di catturare il pesce non ci arriva, sì, trova delle scusanti, no? Vabbè. Credo di aver capito questo. Un'altra frase, diciamo, del fine settimana. Di Ruby. Sì, un'altra frase del fine settimana assolutamente particolare è quella di Bossi, il quale ha detto che Berlusconi ha sbagliato a fare quella telefonata in questura, però non è che dice che non bisogna fare telefonate, perché insomma la realtà è questa, cioè, non è che uno può chiamare in questura così il premier dicendo secondo me il punto è, non è nemmeno quello che ha detto, se ci sono state pressioni o meno, è l'esistenza stessa di una telefonata che non ha senso nemmeno se fosse stato coinvolto, non so, un manager e non una ragazzina 17enne, cioè, non è questo il punto. Bossi dice Berlusconi non doveva farlo, al limite poteva chiamare me o Maroni, via. mi pare che non ci sia niente di penale, però è chiaro che Berlusconi poteva farlo fare da altri. Chiamava me, chiamava Maroni, è meglio non fare quelle scene, quelle scelte lì. Ma come poteva fare chiamare me? Ma, vabbè, è un modo per dire. Sempre di più un vecchio saggio, no, boss? Ma io no, in questo caso sì, saggio fino a un certo punto, perché poi dice poteva. Si sarebbe in mezzo lui. Ma figuriamoci se poi Maroni pigliava il telefono per chiamare la questura. Insomma, è una cosa. Cioè... Peggio il taccon del buso, dicono in Veneto. Eh sì, intanto è iniziato anche il gioco del cerino. Come sai, da tempo è iniziato il gioco del cerino sulla legislatura. Perché c'è un comunicato, una nota congiunta dei capogruppo di Camera e Senato del PDL, Cicchitto e Gasparri, e anche del vicepresidente dei senatori Gaetano Quagliariello. La nota dice: l'onorevole Fini dovrà fare le sue valutazioni o confermare l'appoggio al governo o prendersi la responsabilità di una crisi. E va bene. Fabio Granata, Futura Libertà, buonasera. Tu è caduta la linea, Granata? Pronto? Va bene, Gianluca da Roma, 800 24 00 24. Salve, buonasera a tutti. Ma io sono quasi contento di questa situazione di Berlusconi, cioè io sto sperando ormai da qualche mese, forse dall'anno scorso, che diventi l'idolo, il simbolo della liberazione sessuale italiana. Cioè, il simbolo della liberazione sessuale italiana? Sì, sì, sì, perché costringe le persone a giustificare, molte persone lo giustificano, di vabbè, ma alla fine tromba sì, sa minorenne, ma quasi maggiorenne, però è una gran bella ragazza, alla fine. Cioè lei dice che in fondo, diciamo, l'elettorato italiano è lì a giustificare Berlusconi perché vede in Berlusconi il simbolo dell'uomo circondato, sì, da donne. Insomma, cioè, il bunga bunga ormai fa venire in mente veramente l'immagine, tutto l'immaginario collettivo. Sì, cioè secondo lei dà più consenso, il sorriso. Dà più consenso a Berlusconi il bunga bunga? No, dà più consenso, spero proprio di no, perché poi appunto è costretto a dire che lui è Caritas. Ma no, quello non l'ha detto lui, l'ha detto Rubi, poi non so quanto le dichiarazioni siano state in qualche modo pilotate. Ah, Rubi, non era la sua, mi sembrava attribuita a lui, ma perché se no andasse in Congo a un orfanotrofio, se vuole aiutare i minorenni potrebbe andare in Congo tranquillamente. Cioè, ma poi, no, giusto un aneddoto, cioè io qualche anno fa, prima che entrasse, io abito a Roma, prima che entrasse sì. In vigore la normativa sulla Costituzione, sulla Salaria, ricordo questa scena surreale di una persona su una carrozzella di queste elettrificate, è doppia carreggiata la Salaria. Quindi vedere questa carrozzella già in mezzo a questa specie di autostrada. Ma che c'entra, mi scusi? Perché no? Perché appunto questa scena surreale di questa carrozzella si affiancava a delle prostitute, io infilo dall'altro lato e cercavo allora? Di contrattare. Beh, adesso non ci sono più, cioè nel senso sì. Non ho capito il collegamento, mi scusi Gianluca, mi perdoni, ma non ho capito assolutamente nulla di questo collegamento con la prostituzione di strada, eccetera. No, le spiego, semplicemente che va bene, per me va benissimo, Berlusconi può fare quello che gli pare, sono appunto liberale anch'io. Allora? Però non può fare una legge. Cioè, il suo governo ha puntato molto sulla restrizione della prostituzione. Molto, molto, non esageriamo. Però certamente il ministro Carfagna, se non sbaglio, si è espresso in maniera molto dura. Credo che sia stata approvata anche una legge, se non sbaglio, sulla punizione sui clienti. Ma lasciamo perdere le carrozzelle, i clienti delle prostitute. No, comunque, perché non si possono fare leggi, lei dice, dure sulla prostituzione, sui clienti, eccetera, in presenza di queste cose. Anche va bene, grazie. Scusi, venerdì scorso un telescoltatore diceva: in Olanda, se l'avessero beccato in Olanda, io ci ho vissuto in Olanda per svariati anni. Sì, no, ma non mi pare questo l'argomento, mi scusi, lei insiste molto su questo argomento della prostituzione, cioè non mi pare l'argomento centrale in queste ore, francamente. La ringrazio Gianluca, 800 24 00 24, Fabio Granata, eccoci qui, buonasera. Buonasera a voi. Senta, onorevole Granata, i capigruppo del PDL, rispondiamo subito a questa cosa così ce la togliamo di torno, perché comunque sono cose di tatticismo, come è evidente, i capogruppo di Camera e Senato del PDL, Cicchitto e Gasparri, dicono vabbè, Fini deve confermare l'appoggio al governo oppure deve aprire la crisi. E credo che sia legato alle ultime dichiarazioni di Fini, quelle fatte nella giornata di ieri. Lei ha detto, tra l'altro, che ormai ci vorrebbe un appoggio esterno, ma non è un po' una via di... Insomma, se uno vuole ormai rompere col PDL, non è che dice l'appoggio esterno. Che c'entra l'appoggio esterno? No, ma non è esattamente in questi termini. Innanzitutto io sono intervenuto attraverso il mio blog personale, era una riflessione aperta, della quale certamente si parlerà a Perugia. L'appoggio esterno serve a evidenziare una questione: noi sosteniamo il programma, sosteniamo un programma voluto dagli elettori, ma certamente su molte questioni, dalla scrittura del lodo alla riforma della giustizia, ci sono molte differenze tra la posizione di Future Libertà e la posizione del rimanente del PDL della Lega. Da questo punto di vista, probabilmente una fase in cui il governo sul programma si sostiene con un appoggio esterno ci metterebbe in minore contraddizione rispetto anche alla nostra base e al nostro elettorato. Il mio ragionamento aperto ovviamente va approfondito, certamente non ho teorizzato alcun ribaltone, come ha detto Ronghi, tra l'altro, c'entra assolutamente nulla il ribaltone, anzi è un modo ancora più elegante per sottolineare una differenza senza necessariamente restare seduti al governo. Senta però Granata, al di là di questo, secondo lei, da quello che è emerso finora, me lo dica chiaramente, il fatto stesso che esista una telefonata di Berlusconi alla questura di Milano non è una roba da dimissioni secondo lei? Ma l'unica questione che come ha detto ieri Fini e come noi condividiamo ci allarma è certamente la telefonata, non il contorno completo. No, certo, la telefonata secondo lei vale le dimissioni? Se la telefonata ha avuto il contenuto che viene riferito, certamente è una telefonata che mette in grave imbarazzo il Premier, che dovrebbe a questo punto trarre le conclusioni. Lo ha detto Fini, noi condividiamo questa impostazione. Sì, d'accordo, però il contenuto della telefonata secondo me è quasi indifferente, nel senso che poi la Maroni ha detto che è stata seguita la procedura, eccetera, eccetera. Su questo ci sono varie interpretazioni. L'inchiesta in corso non è per niente indifferente, perché se il contenuto rispecchia un'impostazione secondo la quale si millanda una parentela inesistente con Mubarak, con un capo di Stato estero, e si interviene con delle procedure non esatte nei confronti di una minore fermata, credo che da parte del Presidente del Consiglio sia un fatto da chiarire. Dimmi, lei dice Granata che è stata fatta delle pressioni sui funzionari della polizia? No, ma questa è un'ipotesi che si fa, insomma, un'ipotesi. Ma infatti io sto, come dire, valutando la questione con, ecco, con però, un però ipotetico. Se il contenuto è quello, non è molto più di una pressione. Telefoni il Presidente del Consiglio in persona è molto più di una pressione. Ecco, ma lo stesso fatto che telefoni il Presidente del Consiglio non è una cosa anomala, cioè non è che è normale che il Presidente del Consiglio comunque si chiami la questura per avere notizie di un fermo di una ragazza. Assolutamente sì, è assolutamente anomalo, ma ripeto, al di là della questione, del merito della questione, che interessa molto poco a mio avviso anche agli italiani, al di là delle solite curiosità un po' pruriginose che attraversano l'Italia, ma non solo l'Italia, c'è un fatto che non riguarda soltanto il nostro paese. La questione l'ha posta correttamente il presidente Fini ieri quando ha detto il problema è se il contenuto della telefonata andava nella direzione che è stata riferita ai giornali. Va bene, c'è il traffico. Secondo me, io parto dal presupposto che sarà anche estremista in questo caso. Il fatto stesso che ci sia stata una telefonata è una cosa forse più che anomala, ecco Granata, insomma, diciamo la verità, a lei non tocca il fatto che comunque non le fa riflettere il fatto che una ragazza pare una ragazza brasiliana abbia il numero di telefono del Presidente del Consiglio e chiami il Presidente del Consiglio dopo il traffico? Grazie. Everybody bunga bunga party! Eccoci qui, 18:49, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Parenzo, però a me sembra, chiedo onorevole Granata e alcuni, molti dirigenti di Futura Libertà, insomma, ormai dicono esplicitamente delle cose molto dure nei confronti di Berlusconi, del berlusconismo, però poi sono anche dei politici e dunque per tattica non stacchino la spina, perché le questioni che riguardano questo, glielo dico anche molto chiaramente a Granata, cioè le questioni che riguardano il programma, sì, la fedeltà al programma, diciamo la verità, si dicono perché la politica è fatta così, ma ormai non conta più nulla, insomma, no Parenzo? No, mi pare questo il problema. Infatti la settimana prossima, sabato e domenica, quando si ritroveranno tutti i dirigenti e i militanti di Futura e Libertà, si avrà secondo me qualche sorpresa, no Granata? Cioè deciderete se ritirare la delegazione dal governo e dare un appoggio esterno, oppure se continuare a rosolare il Premier nel suo brodo PDL Lega. Mi pare che sarà questo un po' il tema settimana prossima. Infatti la questione non è per nulla banale, non si tratta semplicemente di staccare una spina, si tratta di fare una valutazione politica che ha delle ripercussioni molto gravi sulla vita dell'Italia. Bisogna farle con una valutazione che si fa all'interno di un gruppo, dei gruppi parlamentari del partito. Perugia sarà un'occasione per questa riflessione, certamente non sarà la telefonata alla questura di Milano a determinare la crisi di governo. Ci sono questioni da tempo molto gravi in campo e c'è quello che ieri Fidi ha sottolineato, soprattutto una, come dire, un'andatura del governo sulle grandi questioni dell'economia, dell'occupazione, delle riforme che non ci convince per Senta, ma il governo, il governo tecnico è una possibilità o poi o voi la escludete? Oggi la Lega ha detto, attraverso le parole di Calderoli, il governo tecnico è una sorta di golpe, si può rispondere a un golpe, si può rispondere anche con la piazza. Cioè, è una, al di là di questo, della valutazione sulla Lega. Queste sono parole molto gravi, ma la Lega ci ha abituata a queste affermazioni di, molto forti. Bisognerebbe stare molto attenti in una fase sociale come quella che attraversa l'Italia. Ecco, ma lei, se si dovesse arrivare alle dimissioni di Berlusconi, o perché voi non, diciamo, attivate questa crisi o per altri motivi, si deve andare a votare oppure è possibile un governo per rifare la legge elettorale? Ma certo non sarò io a stabilirlo. No, secondo lei, secondo Fabio Granato. Certamente, secondo la procedura costituzionale, va ricercata un'altra maggioranza per verificare se c'è una condizione per fare delle cose essenziali e poi chiudere la legislatura. Tendenzialmente ci sarà questo tipo di, come dire, se dovesse verificarsi la crisi di governo, ci sarà questo tipo di tentativo da parte... E non c'è dubbio, ma lei è favorevole a un eventuale governo tecnico? O un appoggio esterno. No, ma oppure no, ma lascia perdere l'appoggio esterno. No, oppure... non c'è nulla, l'appoggio esterno, infatti... non riferivo ovviamente al governo Berlusconi. No, no, c'è il governo Berlusconi, evidente. Governo ecco, il governo tecnico per lei è una possibilità o è una cosa contro il volere degli elettori? Beh, abbastanza nei fatti, però bisogna anche tenere presente che... Abbastanza nei fatti cosa? Un governo è pieno... E nei fatti, in ciò che sta avvenendo in questi giorni, se mi chiede una valutazione politica, personale, io credo che comunque il ricorso alle urne sia sempre nel tempo più breve possibile la via maestra. Un governo può essere legittimato soltanto dal consenso popolare. E dunque... E dunque non decido io, quindi lei... No, vabbè, non decide lei, certo. Mi ha chiesto una mia valutazione, è che bisogna arrivare ad una situazione nella quale votando si riesce anche ad aggregare una possibilità di una maggioranza, qualsiasi essa sia, questo lo decideranno gli elettori. Quindi il ragionamento sulla riforma elettorale, su alcune cose essenziali da fare subito, potrebbe avere un senso, ma questo si verifica tutto. Senta, Granata, lei ce l'ha il numero di telefono del Presidente del Consiglio? Cioè, se lei deve parlare con Berlusconi, so che non è che vi parlate molto ultimamente, forse non avete mai parlato in maniera... abbiamo parlato, abbiamo anche avuto... Ecco, ma lei attraverso dove passa? Cioè, perché dalla qui... brasiliana. Dalla brasiliana, da dove passa? No, cioè, certamente non ho il numero diretto del Presidente del Consiglio, ma il Presidente del Consiglio, come dire, è libero di dare il proprio numero a chi ritiene. Proprio a tutti lo può dare, secondo magari lei. Qualche agenda del Presidente del Consiglio potrei anche invidiarla. Potrei anche invidiarla, dico. No, però dico, al di là dell'invidia o meno, era una battuta, no, ovviamente. certo. Però il fatto che ci sia una ragazza, a me colpisce questa, non perché uno non può dare il proprio numero a chi vuole, insomma, è che insomma sembra strano, una ragazza brasiliana, adesso potrebbe essere anche italiana, non ho nulla contro il brasiliano. Senta, posso dirle con franchezza come la penso. Non sono persona che le manda a dire le questioni della politica o della riforma della giustizia. Sulla questione morale ho sempre detto con chiarezza cosa pensavo. Questa materia non mi affascina, è una sfera che non mi sollecita alcuna vera polemica. L'unica questione veramente grave è quella eventualmente della telefonata al funzionario di polizia millantando una parentela con Mubarak che non esiste e quindi una pressione sul funzionario. Per il resto sono questioni che ritengo siano fuori dalla sfera politica. Lei dice, Non c'è un problema di sicurezza anche, come dire, degli apparati dello Stato, no? Questo no, Brigo e Granata. Questo è un problema che dovrebbe porsi primo fra tutto il Presidente del Consiglio, quindi non è un problema. Certamente c'è una certa disinvoltura nel trattare alcune questioni. Va bene, grazie, buona serata. Grazie. 18 54 30 800 24 00 24. Parenzo, è difficile tirar fuori delle cose. No. Prudente, no, ma molto prudente. Sì, forse fino a Perugia non si può tirare fuori nulla. Alessandro D'Asti, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, premettiamo che il fatto della telefonata è grave solo il fatto che ci sia stata, non quello che si è detto. Alessandro, chiuda la radio, abbassi il volume, sì. Qualsiasi cosa. Fatto. Dica. Fatto. Allora, permettiamo che è gravissimo il fatto che ci sia stata la telefonata, perché Mubarak o non Mubarak è la telefonata che è sbagliata. Sono d'accordo con lei. Poi? Ecco, il problema è, è che in questi ultimi mesi abbiamo parlato della casa di Monte Carlo di Fini, adesso parliamo del Bunga Bunga, senza guardarci intorno e capire che gli italiani hanno altri problemi a cui pensare. L'occupazione. Sì, però quest'idea che il governo è preso da queste vicende, non si occupa di altro, secondo me è un'idea abbastanza. Poi uno può criticare la politica economica del governo, ma non è che non c'è nessuno che si occupa delle questioni economiche. Insomma, siamo noi giornalisti che siamo concentrati sul resto. In realtà poi le cose vanno avanti lo stesso, poi uno le può criticare, naturalmente. A partire dai singoli provvedimenti, sentite la musica, giornale radio delle 19, 800 24 00 24, ci sentiamo dopo. Siamo qui 19:16, 800 24 00 24 il numero di telefono per chiamarci in diretta. Partiamo subito con i titoli del TG3. Il PDL a Fini si decida, o con noi o apra la crisi. Berlusconi, se lascio è un danno per il paese. Appello all'UDC, appoggiatemi. I centristi a Berlusconi, nessun patto, devi dimetterti. I finiani divisi fra chi vuol prendere tempo e chi spinge per la rottura. Ascoltato in procura l'ex questore di Milano che gestì la notte delle telefonate con la procura minorile. Oggi Rubi diventa maggiorenne. In Toscana frana una collina, tre vite spazzate via dal fango. Esondazioni e allagamenti in tutto il nord e per domani allerta al sud. Il Papa condanna la strage alla chiesa cristiana di Baghdad. Violenza assurda e feroce. Oltre 50 i morti. A ottobre meno 40% le vendite Fiat, i marchi esteri perdono la metà. Per il Fondo Monetario, con la crisi, persi 30 milioni di posti di lavoro nel mondo. E 35 anni fa l'assassinio di Pierpaolo Pasolini, un libro inchiesta indaga sulle tante zone d'ombra di un omicidio ancora misterioso. Everybody bunga bunga party! Eccoci qui di nuovo, 19:18. Parenzo, senti su TG4, Quagliariello, che dice? Il presidente Fini, che ha fatto alcune dichiarazioni, ieri ha l'obbligo della chiarezza. Vuole continuare a appoggiare questo governo? Noi ne siamo contenti e saremo contenti di costruire con lui, perché è un pezzo della maggioranza. Non vuole farlo? Lo dica, si prenda la responsabilità di una crisi, e di fronte a questa crisi si aprono due scenari possibili: un governo di larghissime intese, che è possibile in teoria ma non è possibile dei fatti, perché noi del PDL non ci stiamo e la Lega ha letto lei cosa ne pensa Calderoli a proposito, oppure un governo degli sconfitti, di coloro che hanno perso le elezioni e che vogliono fare un ribaltone. Questo governo innanzitutto non si sa se ha i voti in Parlamento. In secondo luogo, sicuramente da un punto di vista della legittimità democratica, non è proprio il meglio che si possa immaginare, perché in democrazia governa chi vince le elezioni, non chi le perde. Okay. Molto bene, ringrazio il senatore Quagliariello, certamente tutto in evoluzione, vedremo cosa capita. Però da un punto di vista, Parenzo, da un punto di vista logico, secondo me Quagliariello ha ragione, lascia perdere la questione del bunga bunga e della telefonata. Bunga bunga non mi interessa, una contraddizione in termini. E qual è? Cioè, la contraddizione è questa: che da una parte Berlusca dice o me o niente, o si va alle urne, e dall'altra flirta con l'UDC. Ma la logica ha i suoi limiti. Sì, però una cosa è l'inclusione di un partito in una maggioranza, cambia la natura del governo. Sono due cose molto diverse. Cioè, dire all'UDC. Venite con noi, cambia la natura della missione. Sì, lì però non è la stessa cosa che un governo diverso fatto magari con il PDL e la Lega all'opposizione. È evidente che sono i governi nascono e muoiono in Parlamento. Sì, no? D'accordo. Quindi, vabbè, sì, però scusami, altera il risultato. No, io capisco cosa vuoi dire tu, ma trovo la contraddizione nel Berlusconi. Sì, ma in questo caso non c'è contraddizione palese evidente, perché come no? No, perché l'UDC è stato eletto per stare all'opposizione. Sì, ma quello l'UDC risponde ai propri elettori su questo, però a parte e che anche siamo Berlusconi. Sì, certo, anche Berlusconi, stiamo parlando comunque di ipotesi fantascientifiche, perché l'UDC comunque, a parte che sarebbe un suicidio politico entrare adesso nel governo Berlusconi. Secondo, già hanno detto esplicitamente, credo il segretario Cesa, che naturalmente Berlusconi si deve presentare prima dimissionario alle Camere, poi si vede. Ma insomma, questa è la posizione classica dell'UDC da un po' di tempo a questa parte, ma al di là di questo è evidente che sarebbe un suicidio politico entrare adesso al governo, insomma, non avrebbe molto senso. Certo. E la seconda cosa è questa. L'UDC che entra al governo, ipotesi, ripeto, fantascientifica, è un'altra cosa rispetto a un governo tecnico. Io sono dell'idea che con questo tipo di legge elettorale, con quello che è successo dal 94 in poi, dopo la caduta di un governo si va alle elezioni. Ma proprio per punto. Questo però, proprio perché tu dici che si cambia, è la stessa logica però, perché se cambi la maggioranza. Sì, ma in quel caso l'aggiunta di un partito cambia la natura della maggioranza, sì, della coalizione. Comunque, insomma, si può discutere perché anche di questo, certo. Si può. Gli elettori del centrodestra non vogliono Buttiglione al governo, non lo vogliono, sì, perché sì, non certo, hanno mandato al governo. Certo, certo. E questo è il punto. Anche questa può essere una contraddizione. Sì, no, ma non c'è dubbio. Ripeto, l'inclusione di un partito è diverso dal fatto che il governo che è stato eletto sostanzialmente dagli elettori magari va all'opposizione. Qui c'è la furbata di Berlusca che dice proviamo ad allargare così siamo autosufficienti e ci liberiamo della zavorra finiana, sì. Rimaniamo in piedi con un gioco di palazzo, per usare le sue parole, perché sarebbe, sì, certo. Una manovra di palazzo. Comunque mi sembra una mossa un po' disperata, ma sentiamo quello che ha detto Fini ieri, a partire naturalmente dalle cose da chiarire sull'intervento diretto in questura. Il punto sul quale mi auguro che il Presidente del Consiglio faccia assoluta chiarezza, ma sono convinto che lo farà o comunque cercherà di fare chiarezza, è uno solo: se effettivamente, come pare leggendo alcuni verbali, c'è stato o meno il diretto intervento presso la Questura di Milano per evitare che identificasse e affidasse quella ragazza a una comunità. Se c'è stato un intervento atto a modificare quello che in qualche modo è la prassi. Insomma, questo è il punto secondo Fini. Poi fuori dai microfoni, dall'intervento, diciamo davanti a una platea, ha detto anche se effettivamente le cose stanno così Berlusconi dovrebbe farsi da parte. Vicenda di malcostume, uso privato di incarico pubblico, sentiamo ancora Fini. Perché se poi quell'intervento c'è stato, ma uso il condizionale, dicendo che quella signorina era parente di uno statista, di un capo di Stato come Mubarak, sapendo che non era vero, beh, amici miei, non credo che ci siano molte ragioni per dire che è una vicenda che non dimostra una certa disinvoltura, un certo malcostume, un uso, diciamo, privato di un incarico pubblico. E qui si ferma anche un po', Fine vorrebbe magari dire qualcosa in più. Poi c'è questa questione della Merkel che è stata interpretata in modo diverso, perché Fini, a meno dalle prime dichiarazioni, dai primi resoconti, sembrava aver detto ero dalla Merkel in Germania e potete immaginare quello che ho sentito. In realtà poi non è così. Nomina la Merkel che non ha incontrato dice potete immaginare quello che ho sentito, non dalla Merkel ma diciamo in Germania da parte dell'interlocutore, dagli ambienti vicini alla cancelleria della signora. E sentiamo l'originale. Qualche settimana fa la Merkel, io ero in Germania l'altro giorno quando ahimè è scoppiata la nota vicenda, immaginatevi i commenti, no? Si discuteva se il multiculturalismo, come l'ha concepito una certa cultura, soprattutto nord europea. Bonfigli dice esplicitamente, parla di cosa si diceva lì, e tra l'altro della Merkel si riferisce a qualche settimana prima, invece poi l'incontro in realtà non c'era stato, ma questi insomma sono dettagli. Dove andiamo? A un gioco sull'igienista dentale o mentale, ma tu lo sai, Parenzo, che Nicole Minetti, sì, di cui si è parlato molto in questi giorni, naturalmente per i motivi insomma che conosciamo, in realtà è consigliere regionale in Lombardia, ma eletta nel listino bloccato di Formigoni. Bravo, sì, l'hai ricordato, mm-hmm, giustamente. Io credo che comunque avrebbe preso anche i voti, quindi non con le preferenze. No, ma comunque su questo c'è stata una lunga battaglia. So che anche tra l'altro Formigoni non era molto, risulta che non era molto contento di questa candidatura. Ha mostrato qualche piccola, come si dice. Beh, insomma, a posteriori, no? Ex post, non posso dargli tutti i torti. Però ho letto da qualche parte che la Minetti ha un incarico presso la presidenza del Consiglio, cioè consigliere regionale della Lombardia con incarico presso la presidenza del Consiglio, che francamente non riesco a capire. Cioè, io ho capito che si sarebbe presentata alla questura. No, ma lascia perdere il dettaglio della. Non sto parlando. È incaricata, ma. Sì, no, è incaricata, sì, però incaricata, diciamo, da amica di Berlusconi, ma non incaricata. No, ma il virgolettato che c'era l'altro giorno, l'ho scritto da Davanzo e da Colaprico su Repubblica, cioè che lei si sarebbe presentata in questura, sì, come incaricata, come consigliere regionale e con un incarico preciso della presidenza del Consiglio, cioè, ma non con un incarico, con un incarico, diciamo, per la faccenda, oppure sì, no, come incarico per la faccenda, io ho capito, non cioè, che ha un ruolo io, anche a Palazzo Chigi. Io da un'altra parte ho letto invece, ma magari mi sbaglio, è forse lo stesso articolo, che è consigliere regionale come se fosse distaccata presso il presidente, presso la presidenza del Consiglio. Beh, che ne so, boh, responsabile delle relazioni esterne, evidentemente. La questione del sì, oppure degli affari esteri, insomma, secondo alcuni. Nota della Padania, certo, come dice Borghezzi, come dice Borghezzi, l'igienista mentale o dentale? No, mentale, dentale. Lo so. Te lo dico perché Renzi ci gioca sopra, senti. Il governo è al punto più basso di credibilità, ormai non basta più neanche l'igienista dentale, siamo all'igienista mentale più che all'igienista dentale. Renzi fa troppe battute, te lo dico. Mi sta un po', domani lo avremo ospite, mi si sta perdendo in queste cose. Comunque insomma, ci sta anche una battuta, però è troppo battutine. Troppo guascone. No, la guasconaggine va bene, però insomma, il battutismo così ormai spinto forse no. Pinotti, ex ministro ombra della difesa, addirittura di quando esisteva il governo ombra del Partito Democratico, che invece, non avendo lo stesso spirito di Renzi, dice proprio igienista mentale, rivolto alla Minetti. Nicole Minetti, che era stata, diciamo, eletta nel listino di Berlusconi, che aveva come suo curriculum politico il fatto di essere stata igienista mentale del Presidente del Consiglio, dentale, mi risulta che facesse parte della sua giovanile di qualche partito, consulente, sì, igienista dentale, mi scusi, non so cosa. Vabbè, succede anche questo, però per me uno dei master resta l'intervento di Giancarlo Lenner l'altra sera da noi, quando dice: in realtà Berlusconi non è malato, è malato chi va a trans, non Berlusconi, questo è eccezionale, difesa di Berlusconi, Lenner. Malati sono quelli che vanno a trans, scusatemi, forse io sono vecchio, ma quelli sono un po' malati, quelli che vanno a trans, uno che va con una donna mi pare che sia dentro le regole, o che comunque viene stimolato da una donna, insomma. È malato chi va a trans, dice Lenner, non uno che va con una donna. Abbiamo la borsa del 1930, 800 24 00 24. David, riconosci? Questo poteva essere Mozart. Mozart. Perché abbiamo messo Mozart, ti chiederai? Perché non lo so, un tempo per il Don Giovanni? No, può darsi, ma in realtà non è così. Il riferimento non è sbagliato, però l'altro giorno in prima pagina sul Corriere della Sera Francesco Verderà mi ha ricordato una cosa, che Confalonieri, e stiamo parlando di Confalonieri, non di un anti-berlusconiano di ferro, tutt'altro, amico storico del Premier, che una volta ha ricordato che una volta paragonò con Falonieri Berlusconi a Mozart. Tu dici, vabbè, con Falonieri figurati, è un elogio, però un genio. In realtà che cosa ricordava con Falonieri? Aia. Ricordava questa cosa qui, la frase esatta è questa: il genio che pizzicava il sedere alle locandiere. Sei d'accordo sul genio? Sono d'accordo sia sul genio, perché indubbiamente a suo modo è un genio, certo. Press, a suo modo è un genio. Sia su questa immagine molto, come dire, sì, viva, no? Dell'idea, sì, di un simpatico. Simpatico Guascone che ama le donne, come Berlusconi stesso ricorda, no? L'ha detto lui, io amo le donne, bella che sia del pizzicotto, tac, molto, no? Sì, sì, siamo anche elegante, se vuoi. Non credo che ci si limiti a pizzicotto, però forse sì. Però, ripeto, l'ha detto con Falonieri. La cosa più straordinaria resta l'intervista di Gianni Santucci sul Corriere della Sera alla modella brasiliana, ospite della marocchina. Sono stata io ad avvertire il presidente. Avevo il numero del presidente da qualche anno. Non l'avevo mai usato perché non ne avevo avuto bisogno. Quella sera però ero preoccupata per quella ragazza appena portata via dalla polizia, senza documenti, molto in difficoltà, così ho chiamato. Più o meno le 9:30. È stato lui a darmelo il telefono, dicendomi di usarlo in caso di necessità. Questo pure è straordinario. Questa donna ha avuto una lunga relazione, questa brasiliana, con un uomo molto importante, amico del presidente. E ha conosciuto Berlusconi in occasione di alcune cene con il suo ex fidanzato. Vabbè, poi dice, il premier è un uomo sempre pronto ad aiutare gli altri, per questo alle persone che conosce bene dà quel numero per casi di emergenza. Sono andata in questura per capire, non sapevo come aiutarla, ho fatto la telefonata. Così è iniziato l'interessamento del presidente per Ruby. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, andiamo a Siena dal signor Rolando. Buonasera. A Siena, qui vicino. Sì. Buonasera. Esatto. Vado a trovare Parenzo. Sì, siamo vicini. Anzi, sono io, abito esattamente vicino dove c'è il congresso radicale. E dov'è il congresso? A Chianciano. Ah, Chianciano. Allora, lei, Chianciano. Lei è provincia, allora? Sì, provincia di Siena. Provincia, certo. Di Siena. Provincia. Beh, Ruggino, dove sono di nascita e toscano di adozione. Mi dica tutto. Niente, intanto complimenti perché la trasmissione, nessuno l'ho mai coinvolto da tanto tempo nella sua trasmissione. Qualche volta con amarezza, qualche volta con piacere. Oggi sinceramente ho telefonato un po' arrabbiato con lei. Si arrabbi pure? No. Si è smosciato. Sarebbe l'ora che la smettessi di arrabbiare. Si è smosciato, no, smosciato perché sinceramente oggi ha smesso di fare. Oggi perlomeno mi sembra più equilibrato. Vede come va la vita? Magari sono stato sempre equilibrato. Ma e poi... guardi, io la seguo da tanto veramente. Allora... voglio interrompere. E prima avevo un'idea, diciamo così, di equidistanza sua, poi sì, ho avuto la sensazione per un lungo periodo, sì, che lei fosse sbilanciato, un Emilio Fede radiofonico, balanzone. E poi dopo, adesso, oggi. La sto telefonando, ora io sì, l'ascolto per radio, sì, per telefono direi, perché io l'ascolto più o meno sempre su Sky, non l'ascolto per radio. E allora? Macchina. Oggi la vedo un pochino più, diciamo così, equilibrato. Vedo che non è che difenda sparatratta qualsiasi stupidaggine che fa il nostro premier. Ma guardi che io non l'ho mai fatto nemmeno prima. Ma forse è la mia opinione. Io, per carità, siamo qui anche per ricevere le critiche. No, io sono un elettore di destra, le dico sinceramente. E da quando... Vabbè, che ne pensa di quella... quando Fini ha aderito, ha chiuso l'Alleanza Nazionale, non sono un missino, perché io sono ricordato. Ma quando Fini ha chiuso l'Alleanza Nazionale? Non sono più andato a votare. Addirittura? No, non sono più andato perché io, Berlusconi, ho avuto il piacere di conoscerlo nel 1976, quando io ho sposato. Lei è uno di quelli, diciamo, di destra che non ha mai sopportato Berlusconi? Non è che non, io l'ho conosciuto personalmente e avevo l'opinione di Berlusconi comprovata dal vivere insieme alcune situazioni, sì, che aveva nostro ex direttore del giornale morto, il caro Indro Montanelli, il grande Indro. Bisogna conoscerlo perché sennò non si può spiegare. Però niente, va bene. Per me non c'è niente di nuovo. Ecco, questo volevo dire. Quindi, quando si è verificato questo, sapevo che succedeva quello che succede. Vabbè, purtroppo... non è che Rolando, non credo che all'epoca ci fossero le stesse situazioni, no? No, feste no, no, con no, 20, però, 30. Io ero, guardi, le dico una cosa, poi la sì, lascio. Io ero ospite, ospite, siccome lavoravo nelle televisioni, sì, ero ospite al Ciocco, che forse Parenzo conoscerà, non so se lo conoscerà anche lei. Sì, sì, lo conosco. Il Ciocco è la proprietà, ecco, io ero ospite lì perché Marcucci, Marcucci e la figlia, che è di età come me, che era la vice, vice presidente della regione toscana, mi ha offerto questo, per il mio matrimonio, questo, questo, diciamo, questo soggiorno, no? Allora? E è venuto Berlusconi lì perché avevano rapporti di lavoro, nel senso che allora Berlusconi partiva, o perlomeno era un po' avanti già con la televisione. E che ha, e che ha fatto là Berlusconi? E il non Berlusconi, il signor Marcucci mi disse: guarda Rolando, questo personaggio, questa persona, addirittura era ospite Leone in quella sera lì da loro, questo, per questa persona non è una gran persona per bene, ma farà tanta strada. Ma lei pensi, adesso, alla lungimiranza di questo Rolando, personaggio? Adesso sono le cose derelato è così generiche, insomma, ce le possiamo anche persona, ho capito, no? Ce le possiamo anche risparmiare. Grazie, grazie Rolando. Intanto Parenzo, ti leggo la sintesi di Dago Spia in questo momento, che mi pare abbastanza azzeccata. C'è uno Berlusconi addirittura in manette, con anzi una caricatura di Berlusconi in manette, fine di un'epoca, questo è il titolo. Boccassini in campo, partita finita, il pallino in mano alla procura di Milano. Certo, questa è pure un'altra stranezza, eh. Ilda La Rossa ha spremuto come un limone l'ex questore di Milano Indolfi per far luce su chi tra i funzionari della questura quella sera permise che Rubi, anziché finire in una comunità protetta come aveva indicato inizialmente la procura minorile, potesse essere consegnata senza troppi danni alla consigliera Minetti, che successivamente verrà indagata per favoreggiamento della prostituzione insieme a Mora e Fede. Bruti liberati, seppure ha mentito, Berlusconi non avrebbe commesso nessun reato. Il Cavaliere chiede l'appoggio esterno dell'UDC, le notizie di oggi. La Lega rivolta contro il governo tecnico. Calderoli, approfittando delle vicende personali di Berlusconi, in atto un colpo di Stato, ma sarebbe il golpe dei fighetta, di quelli che frignano e che non hanno voce e voti. Ma se c'è un colpo di Stato, la rivolta del popolo è legittima, che è una delle frasi del giorno. Rivolta del popolo contro un eventuale governo tecnico. Va bene, Paolo. C'è inchiesta in corso per capire cosa è successo, e questa è una notizia. Però stavo pensando al volo una cosa: che se non ci fosse stato il terribile attentato nei confronti di Berlusconi, quello della statuetta del pazzo di Tartaglia, guarda le sliding doors della vita: Berlusconi non avrebbe conosciuto l'igienista dentale. E probabilmente la storia sarebbe diversa. Pensa che non lo so, ma avrebbe mandato qualcun altro là in soccorso, in soccorso di Rubi. Intorno, cioè la regista dentale è stata candidata dopo che Berlusconi l'ha conosciuta, dopo l'incidente. Sì, è vero, è vero, è vero. È una serie di coincidenze pazzesche. Bisogna vedere naturalmente che ruolo ha avuto anche nel far conoscere Rubi, però insomma io credo che sia un dettaglio, perché siccome sono tante persone che ruotano intorno a Berlusconi nelle sue feste, ma è legittimo, prima o poi qualcosa esce, che sia Rubi, che sia l'igienista dentale. Poi la brasiliana la conosce da più tempo dell'igienista, tra l'altro. Pare di sì. Questo, che l'igienista, ecco, è venuta dopo in scena, perché invece la brasiliana da 3 anni aveva il numero di Berlusconi, a detta della brasiliana. A detta della brasiliana, cioè, storia pazzesca. Che vorrei chiamare per telefono, lo stiamo cercando ovunque, se ci sente, anche se oggi a Milano si sente poco la radio, da quello che ci comunicano, per motivi climatici. Che vuoi fare? Andiamo avanti così. Insomma, se qualcuno ci sente, brasiliana, chiami Radio 24 La Zanzara. Paolo da Torino, buonasera, 800 24 00 24. Buonasera. Dica. Io voglio dire due cose velocissime. La prima è che per me Berlusconi può anche fare il bagnetto con un coccodrillo, che fa lo stesso, cioè sono problemi suoi. Sì. Dopodiché, venerdì in ufficio, infatti avevo chiamato venerdì, poi gentilmente mi avete richiamato quest'oggi, ho dato una scorsa alla stampa estera. Sì. E da paura, veramente. Come italiano mi sì, sento... Però Paolo, le posso dire una cosa? Sì. Io non so cosa abbia letto lei. È normale, abbastanza normale, come facciamo noi quando ci sono degli scandali personali che riguardano dei leader della Gran Bretagna o della Francia. Certo, magari ce ne saranno un po' meno rispetto alle vicende personali di Berlusconi. Siamo i corrispondenti esteri in Italia che non hanno molto da raccontare, o comunque la politica è bizantina. Da raccontare ce n'è. Sì, sì, però non hanno molto da raccontare, nel senso che è complicato capire alcune cose. Su una vicenda del genere si buttano a pesce, dunque i grandi titoli sono su... No, per carità, però appunto dalla Germania alla Francia, Inghilterra, cioè Spagna, tutto compreso, insomma, non credo che siano tutti i giornali di sinistra, premetto che non sono né di sinistra né di destra io. Dopodiché condivido molto l'opinione di Parenzo, l'analisi politica che ha fatto prima, qualche minuto fa. Su che cosa? Sull'UDC. Adesso, abbia pazienza, ma nel Sull'UDC. Sì, perfetto. sui giochetti che fa adesso probabilmente Berlusconi, eccetera. Cioè uno non può rimproverare gli altri di fare giochi di palazzo quando anche l'entrata eventuale dell'UDC è un gioco di palazzo. Secondo me Parenzo ha centrato perfettamente l'obiettivo. Dopodiché l'ultima cosa, cioè, poi sarebbe una legittima manovra parlamentare, ma sì, però l'aggiunta di un sono giochi di palazzo entrambi, però l'aggiunta di un partito a un governo eletto è una cosa diversa. Attenzione, certo che cambia la natura della maggioranza, però anche il mandato popolare, sì, perché non erano alleati prima del non considerare il fatto che l'aggiunta di un partito, ripeto, ad una coalizione eletta dal popolo è una cosa diversa piuttosto che un governo di partiti sconfitti. Ma abbiamo appena detto che si vota lista e una coalizione. Ho capito, ma se non dici nemmeno che sono due cose completamente diverse, l'aggiunta, io sono manovre parlamentari entrambe, ma è evidente, lo stesso valore, ma non hanno lo stesso valore. Su, identico, sentiamo la Cassazione. Paolo. Pronto, mi scusi. Eccoci qua. Però volevo chiederle, faccia un po' di rima un po' la questione dal suo punto di vista. No, secondo lei? Non mi intendo di politica. D'accordo, però è interessante soprattutto per il fatto che lei non si intende di politica. Il fatto che un partito entri in una coalizione, questo non accadrà, perché l'UDC non parteciperà mai al governo, però. Beh, non sono mica matti. Esatto, bravo. Lo vede che lei capisce molto di più di quanto un fine analista politico magari ci metterebbe 3 ore a sintetizzare. Non sono mica matti. Ecco, questo sintetizzerei con questo la posizione dell'UDC. È un politologo importante, è vero. Assoluto. Allora, è vero, è partecipare, altro che pane bianco. Altro che pane bianco. Paolo da Torino. Pane bianco, Paolo Bianco. Paolo Bianco. Bravissimo, faccio il commentatore. Allora, l'entrata di un partito è diversa dal fatto di fare un governo con certo tutti i partiti che non sono stati votati, non c'è dubbio su questo. Certo. Ho ragione io, capito Parenzo? Paolo, no, comunque dico, l'ultima cosa che voglio dire è questa: mi piacerebbe vedere alla fine di un incontro al vertice, diciamo così, Italia-Egitto, alla conferenza stampa finale, Mubarak e Berlusconi assieme. Dovrebbe essere, secondo me. Io voglio conoscere la nipote di Mubarak. La vera nipote di Mubarak. La vera nipote di Mubarak, per me. Però voglio vedere chi fa le corna per primo, insomma. Mubarak e Berlusconi sono molto amici, è stato ospite spesso in Sardegna, magari l'ha detto dicendo che sì, ma succede un casino, però erano poi molto amici. No, vabbè, non credo che Mubarak si faccia condizionare da queste robe qui. No, insomma. Non penso, però insomma, figure così veramente mi creda, come italiano. Naturalmente un po' in imbarazzo. Ripeto, poi se leggeremo prima o poi leggeremo anche gli interrogatori dei poliziotti, della questura, eccetera, eccetera. C'è da precisare che la difesa di Berlusconi, lo stesso Berlusconi, oggi c'è un articolo sul giornale che riporta la versione di Berlusconi, nega che il Presidente del Consiglio che abbia mai detto la questione di Mubarak. Sembra che, no, è così io leggo, poi prendetela come volete, perché... sembra che la cosa di Mubarak sia venuta fuori, secondo la versione di Berlusconi, dalle parole della ragazza e non da Berlusconi stesso. Adesso poi, questo è difficile da immaginare, come una ragazza marocchina si possa inventare sono la nipote di Mubarak. 17 anni poi, una ragazza di 17 anni che si inventa di essere nipote di Mubarak. Questo mi pare molto complicato. 19:48 800 24 00 24, altri ascoltatori, sempre da Torino. Gianluca, buonasera. Buonasera Cruciani, volevo proporre, siamo d'accordo che, sono d'accordo con lei che il fatto di già di fare che un premier faccia una chiamata sia una cosa poco... Sì, perché la questione è, nelle pressioni, io non credo che Berlusconi abbia detto al capo di gabinetto della questura liberami questo in maniera forte, però lo stesso fatto che uno telefona, cioè il Presidente del Consiglio chiami, insomma è evidente che c'è una pressione implicita, no? Certo, anche perché in quel caso non è il signor Silvio Berlusconi, ma è il Presidente del Consiglio. Sì, insomma, chiama Berlusconi dicendo guardate, evitate le problemi, affidatela alla Minetti, insomma qualche... Io mi immagino il dirigente di polizia che si è ricevuto la chiamata, non si deve essere sentito un grande bene. Volevo proporre un altro spunto di discussione magari. La questione che mi ha fatto pensare, a parte che non mi frega nulla della vita privata del Premier, sinceramente sto provando anche un certo fastidio a continuare a leggere di queste cose, e va bene, e questo è un dato di fatto. Però vorrei tanto anche che il Premier non si interessasse della mia di vita privata. Che significa? In che senso, scusi? Perché ci sono tanti tante questioni della vita privata dei cittadini, tipo il fine vita, questioni sul testamento biologico, coppie di fatto, che sono legittimamente, dico, seguono una certa linea del governo che ha preso i voti e ha avuto la maggioranza. Però ora mi chiedo, almeno una certa coerenza è possibile che si richieda a un governo del genere? Almeno, però scusi Gianluca, le questioni che riguardano la vita privata di ciascuno di noi, o scelte personali che riguardano la privacy, come le questioni bioetiche, su questa vicenda francamente non vedo collegamenti. Un collegamento sulla politica, Cruciani. Uno può discutere della legge sulla prostituzione, possiamo discutere della questione che riguarda le coppie sulle questioni che riguardano la famiglia, come diceva Parenzo. La famiglia, la tipica famiglia italiana che deve però su questo c'è, su questo io sono d'accordo con quello che ha scritto, credo ieri o l'altro ieri, Giuliano Ferrara sul Foglio. Non è che si può dire, siccome Berlusconi fa un certo tipo di vita, allora non può difendere la famiglia. Secondo me non c'entra assolutamente nulla. Insomma, sono due questioni un po' diverse. Non si può imporre degli stili di vita, ma nessuno impone. Io ho diritto di andare a prostitute, posso andare a prostitute, ma non è vero. A parte che non è vero, aspetta, che se mi sente mia moglie qua mi casa. A parte che non è vero, prostitute. E certo, mi multano. Questa è evidentemente una contraddizione. A parte che è una contraddizione, io sono a favore di un altro tipo di legislazione, per cui figuriamoci se sono a favore della multa per i clienti. Ma fermi tutti, onorevole Gabriella Carlucci, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Dove si trova? Sto tornando a Roma, sono ancora sull'autostrada, c'era moltissimo traffico e moltissima pioggia. Da dove sta tornando? Da Margherita di Savoia? Da Napoli. Non è stata a fare il sindaco, no? Nel suo paese. Sono stata a fare il sindaco e poi mi sono fermata a Napoli. Bene, per il fine settimana, giustamente, perché c'è il ponte. C'era il ponte, esatto. Senta, c'è spazzatura in giro? Come c'è spazzatura? No, chiedevo se c'è spazzatura a Napoli. Che domande fa? Devo dire molto di meno di quella che immaginassi, e poi hanno continuato, perché credo che lo stiano facendo da alcuni giorni, a sgombrare almeno bene il centro, poi il resto della città non lo so. Il centro comunque... non c'è Olezzo, ecco. Al centro non c'è Olezzo. Ci sono ancora cumuli di immondizia, però ho visto che rispetto a due giorni fa oggi ce n'era molto di meno, e si vedono andare avanti e indietro questi autocompattatori dell'immondizia. Allora, senta, onorevole Carlucci, lei quando vuole comunicare con Berlusconi come fa? Allora, ci sono vari modi. Innanzitutto c'è la batteria del Viminale o il centralino di Palazzo Chigi, che è un numero che hanno tutti i deputati, tutti del governo. Cioè il centralino di Palazzo Chigi in realtà ce l'abbiamo anche pure. Anche la batteria del Viminale. Anche la batteria del Viminale. Nel senso che è un centralino appunto del Ministero degli Interni, per cui tu dici chi sei. Sì, certo. Metti in contatto con il Presidente. Io ho usato spessissimo questo mezzo. Per comunicare col Presidente Berlusconi? Per comunicare col Presidente Berlusconi. E poi chi le passano? Il capo scorta, Bonaiuti, chi le passano? No, spesso direttamente lui. Così al volo. Non l'ho mai visto. C'è una serie di segretari che stanno accanto a lui, però dipende dove si trova in quel momento, però insomma. Cioè dalla batteria lo avvertono, c'è l'onorevole Carlucci che la cerca. Qualcuno parla con lei. Così. Oppure questa sua segreteria è molto efficiente, ci sono alcune persone in segreteria, alcune delle quali io conosco personalmente, che quindi mi mettono in comunicazione, ma senza passare per un numero particolare, attraverso questi centralini. Cioè lei non ce l'ha un numero particolare che le mette in collegamento direttamente con capo scorta? Non ce l'ha. Io ho i numeri comunque della sua segreteria particolare, della sua scorta, ho tutti questi numeri, certo. Se non, però è più facile passare per i centralini che abbiamo detto prima. Certo. Però lei è un deputato del PDL, insomma, deputato del PDL, ha una figura istituzionale, una persona che conosce Berlusconi da un sacco di tempo, e dunque è abbastanza logico che possa avere, diciamo, un telefono che non sia quello della batteria oppure del Viminale o di altri numeri. Qui sembra che insomma ci sia una modella brasiliana che abbia attivato Berlusconi la sera famosa di maggio, quando poi è successo tutta l'affare di Ruby. Lei ci crede a questa cosa? Ma perché no? Io conosco Berlusconi da tanto tempo. E dà il numero così facilmente? No, è una persona gentile, educata, gioviale, molto simpatico, ha tanti conoscenti. Io, e i suoi conoscenti spesso sono accompagnati da bellissime donne, quindi non trovo strano che magari questa modella fosse la fidanzata di un suo conoscente, di un suo amico. E che quindi in quel modo sia potuta venire a conoscenza del numero. Beh, insomma, però ammetterà onorevole Carrucci che è un po' bizzarra questa cosa, cioè nel senso che con tutta la particolarità di Berlusconi, col fatto che Berlusconi certamente ha una vita diversa dagli altri, diciamo, capi di Stato, e questo sono affari suoi, insomma, il fatto che una modella brasiliana una sera chiami direttamente Berlusconi per dire guarda che sta succedendo una cosa che riguarda una persona che tu conosci, insomma, un po' desta un minimo di perplessità o no? Ma no, perché appunto Berlusconi ha questa vita di relazioni molto intensa, organizza spesso cene, convegni, invita tantissima gente, ha tantissimi amici che magari vengono in compagnia di belle donne, veramente molto, molto spesso mi è capitato di essere a queste cene e di vedere gente che magari non aveva niente a che fare con la politica, magari erano imprenditori, piuttosto che accompagnati da donne, quindi non mi stupisco del fatto che qualcuna di queste accompagnatrici o fidanzate o ex fidanzate possa avere il suo numero. Lei non si stupisce del fatto che ci sono delle persone in giro per l'Italia, in questo caso una modella brasiliana, che ha il numero personale di Berlusconi, lo chiami al volo una sera per risolvere un problema. Non è una cosa che la colpisce particolarmente? No, assolutamente. Assolutamente. No, ma è strano che non ce l'abbia lei, no? Capito? Cioè, nella vicenda, onorevole Carlucci, lei che fa politica ormai da tanti anni, è strano che i deputati del PDL debbano ricorrere alla batteria e una signorina brasiliana, conosciuta in quale contesto non si sa, ma come, batteria, ha il numero. Ma allora, se io è volessi curioso. Avere il numero di Berlusconi, ci metto 2 secondi ad averlo. Se lo volessi avere, se mi servisse. Quando io ho bisogno di parlare con Berlusconi, non devo fare strani giri. Chiamo, come ho detto prima, questi due numeri che sono messi a disposizione, che peraltro servono per parlare, se volessi parlare col Presidente della Repubblica. Sì, no, certo. Questo è un metodo. Me lo passo, dipende dal mio interlocutore. Ma anche i giornalisti certo, fanno così. Dipende insomma. Dal mio interlocutore accettare la telefonata o meno, quindi a me non mi serve un numero diretto di Berlusconi, peraltro volendo potrei in 2 secondi attraverso la sua segreteria direttamente, no, certo, attraverso certo. dei conoscenti in comune averlo in 2 secondi, non mi interessa averlo perché io riesco a raggiungerlo in altra maniera. Senta un'altra cosa, ma la telefonata di Berlusconi in questura, mi dica la ma io ho letto la ricostruzione che fa Berlusconi quella telefonata, mi sembra che sia così, nel senso che lui si è intervenuto non sapendo che questa persona fosse accusata di furto. Per quanto riguarda l'affido, la legge non obbliga, lui si propone come quello che trova una soluzione per questo affido di minore. Ecco, ma perché deve essere lui a trovare una soluzione? Perché chiama lui la questura? Questa è la cosa che non torna in questa vicenda, ne parleremo dopo la pubblicità. Resti con noi, tanto è in viaggio, speriamo che la linea tenga. 800 24 00 24, c'è il punto, onorevole Carrucci, non è tanto le pressioni o non pressioni, che pure sono cose importanti, cioè che tipo di telefonata c'è stata, la questione di Mubarak, insomma sono cose tra il comico e il ridicolo da sotto certi aspetti, ma è il fatto stesso della telefonata. 800 24 00 24, pubblicità, TG1, allora partiamo. Nubifragi e frane in tutta Italia, fiume di fango uccide madre e figlio in Toscana, in Liguria deraglia un treno, in Veneto paesi evacuati. Berlusconi, se lascio danni per il paese, PDL affini con noi o apra la crisi, Fignani non staccheremo la spina, serve rilancio, Calderoli, governo tecnico, un golpe. Strage nella chiesa cristiana di Baghdad, più di 50 morti nel blitz delle forze irachene, Papa, assurda e feroce violenza. Super Enalotto, viaggio nel paese più vincente d'Italia, ancora feste, ora qualche fortunato comincia a nascondersi. Oggi festa di ogni santi, difficile conoscerli tutti, sono migliaia, ma nella scelta dei nomi il legame con i santi resta forte. Nostalgia di Mourinho, a Milano in tanti a rimpiangere l'ex allenatore dell'Inter che domani tornerà a San Siro per la vigilia di Champions. Bruce Springsteen a Roma per presentare un documentario al Festival Internazionale del Film, in una intervista esclusiva al TG1 il boss racconta il senso della sua arte fino all'attuale momento politico negli Stati Uniti. Everybody bunga bunga party! Eccoci qui, 20 e un minuto, 800 24 00 24, caro Parenzo, io ho ancora nelle orecchie il racconto straordinario del nostro interlocutore di venerdì, quel signore che ci ha chiamato a un certo punto Luca ci ha dettagliato sul significato della parola bunga bunga. Ora lo so che la questione è delicata e anche per una donna insomma, abbastanza difficile da affrontare, però non so nemmeno se sia particolarmente interessata a capire, ma onorevole Carucci, lei ha capito se è interessata di questo, a questo bunga bunga, ha capito di che cosa si tratta? È sulla bocca di tutti, non è che noi lo facciamo per gossip. No, lo trovo molto divertente, devo dire che ecco, si è divertita anche lei, si è divertita sì, anche moltissimo. Lo trovo molto divertente. Due sere fa ad una cena guardavamo la partita della Juve poi vittoriosa e dei miei appunto amici a cena hanno detto il titolo di domani sarà bunga bunga Juve. Beh, cioè, voi avete anticipato addirittura il il titolo. Pare e che Berlusconi si è incazzato. No, ma pare anche Berlusconi, pare anche Berlusconi si è arrabbiato moltissimo per quel titolo lì della Gazzetta dello Sport, oltre a Galliani, come hanno reso contato i giornali. Cosa la diverti in questa storia del bunga bunga? Cioè il fatto che ci si che sia scatenato il putiferio intorno al bunga bunga, ma lei ha capito di che cosa si tratta? Sì, no, non so di cosa si tratta, però. Ma come no? Allora, dico questo, noi tante volte siamo a cena con il presidente e lui ama raccontare le barzellette e nelle barzellette ci sono spesso appunto dei nomi inventati, è capitato mille volte delle barzellette molto divertenti perché lui è bravissimo a raccontarle. Lei dice. Dove interpreta persone diverse, fa voci diverse, quindi ci sono spesso nelle barzellette dei nomi inventati, quindi non ho capito, non mi sono interessata comunque al bunga bunga. No, ma come no? Ma lei, io so, lei sta ridendo, cioè, perché insomma un po' di curiosità le sarà venuta di che cos'è questo gioco del bunga bunga, che cosa si tratta di una. Ma sul serio, non ho guardato, non ho letto, non ho fatto approfondimenti sul bunga bunga. Cioè lei non sa, è una delle poche italiane che non sa che cos'è bunga bunga, non è possibile. No, no, non mi sono interessato, ho letto articoli di altro genere, quelli che parlavano in particolare del bunga bunga non mi hanno interessata. Lo trovo un nome, è il suono che è divertente, non è che è stato utilizzato, no? Perché siamo sentiti titoli sulle Juve. Sì, certo. Senta, ma la migliore barzelletta di Berlusconi secondo lei qual è? La più bella? Non saprei dire, però molte spesso riguardano se stesso. Prende in giro se stesso, quindi. Certo che se fosse vera la cosa di Mubarak sarebbe un guaio, Ma io non credo proprio. Lei no, lei dice no. Di no. No, e com'è? Anche la telefonata stessa, però. Per me anche la telefonata stessa. Secondo l'onorevole Carlucci, no, però. Io poi la conosco da un po' di tempo, l'onorevole Carlucci. So che lei, per esempio, pur da deputato. Anzi, nel ruolo di deputato, lei la farebbe una telefonata in questura per risolvere una questione da deputato? È una questione di una sua persona coinvolta in una vicenda? Beh, insomma, non la considererebbe un'intromissione negli affari, in una procedura che si sta avviando, eccetera? Ma dipende, perché quello che non si sa o non si dice, o si dice poco di Berlusconi, che è veramente una persona buona. Veramente una persona generosa, non si è mai detto, e lui fa da anni, lo si dice, non lui è... regala il suo stipendio da deputato, da premier, lo regala da anni, da sempre, ad una comunità di recupero dei tossicodipendenti, ma sono cose che lui fa distinto perché ha veramente buon cuore, io l'ho visto tante volte. A chi li regala? A Don Germini? A chi? Una comunità del Lazio, di questa regione, sì, dove sono io adesso, insomma, non Roma ma Lazio. Ma ad ogni buon conto, io l'ho incontrato in tante occasioni pubbliche in cui ci sono, viene sì. Fermato dalla gente, tutti gli mettono in mano il pezzettino di carta, tutti gli danno una busta con sopra scritto qualche cosa. Lui non è che prende cestina o mette legge in un angolo, tutto. Da qualcuno. No, legge, dà ad una persona che poi comunque lo relazione, questo lo so per certo, perché alcuni messaggi di aiuto, sono stata io veicolo di alcuni messaggi di aiuto, no? Di alcune situazioni spinose. Sono stata io l'attrice del messaggio, della busta, della lettera, e scientificamente lui ha risposto, quindi ho la contezza di quello che sto dicendo. Però, quindi è veramente una persona che cerca di aiutare gli altri, lo fa istintivamente perché per calcolo politico, ma è il libro cuore, va benissimo il libro cuore, e immagino che sia così perché molte persone che l'hanno frequentato mi dicono la stessa cosa. Sì, però, è così perché chi lo frequenta, chi lo conosce, lo vede nell'attività. Ma d'accordo, se però nell'esercizio delle sue funzioni per far del bene a qualcuno rischia di commettere anche un reato, come nel caso di specie, perché il reato non lo so, però la questione se la questura se la avvocatura si sta indagando, la procura sta indagando, no, ma non su un eventuale la questione non, di diverso, no, certo. Qualcuno ipotizza che ci possa essere anche un reato, ma lasciamo perdere la questione però, dei reati. Qualora il reato però se c'è è una questione politicamente rilevante, no? Sì, sì, d'accordo, però ma la anche questione... qualora non ci fosse, c'è un'ingerenza di una persona potente che governa il paese, perché se telefono io la questura mi dice Marameo Parenzo, ma di che stai parlando? La no, signorina è qui per accertamento. Parliamo di ingerenza, qui si tratta di avere segnalato la possibilità di un affido temporaneo, cosa che è richiesta, ma non è nelle sue competenze, lo decide il giudice dei minori, non Berlusconi. Ha suggerito che c'era questa possibilità. Ho capito, ma perché uno quella fa... Quella persona era in difficoltà, perché altrimenti l'avrebbero magari mandata chissà. Ma non è strano, mi scusi, certo, onorevole Carucci, però non è strano, esatto, non è strano il fatto che il Presidente del Consiglio si occupi delle vicende di una 17enne marocchina che ha una vita piuttosto... La solita persona, cioè, la solita mania dell'ad personam. Allora, non è così, perché vi ho fatto l'esempio prima, anche di situazioni veramente minuscole, molto piccole, lui si interessa di tutti. Io so per certo, perché ha dato risposte a delle situazioni dove magari poi non è riuscito a trovare la soluzione definitiva, ma dove comunque si è interessato, sì, e ha mandato d'accordo, una lettera, però una risposta, in questo caso però onorevole Carlucci, lui si interessa di una persona che ha partecipato alle sue feste, su questo non c'è dubbio, adesso voglio dire, cioè, probabilmente una persona che lo avrà lui dice che forse credo di aver capito che lui aveva parlato con questa ragazza che aveva capito che aveva avuto comunque una vita, dei trascorsi molto tristi, di grave difficoltà, quindi probabilmente l'ha voluta veramente aiutare. Allora poi non faccia votare la legge Bossi-Fini, però scusi, né imponendo una sua decisione, lui ha segnalato che c'era l'opportunità di un affido temporaneo, cosa prevista dalla legge. Scusi, onorevole Carlucci, l'affido temporaneo della persona, aspetta un attimo, è alternativo alla comunità. Diciamo anche questo. Sì, no, ma io non sto discutendo le eventuali, per quelli saranno i giudici a stabilire se ci sono state pressioni di che tipo, se è stata, diciamo, liberata tra virgolette nei termini di legge. La polizia ha detto che la procedura è stata seguita regolarmente, il PM forse la pensa diversamente, vedremo le indagini. Però io penso, e questo ne sono convinto, e lei sa benissimo, io non sono un anti-berlusconiano di complemento, penso che la telefonata del premier alla questura sia un'anomalia. Ma lo penserei anche se la facesse lei la telefonata, onorevole Carlucci. Se lei da parlamentare dicesse: guardate, è meglio che questa persona non passi la notte in questura, ma la affidate a un parlamentare, così penso che sia, cioè un funzionario di polizia che si trova di fronte a una telefonata del genere ha comunque delle pressioni, o no? Ma il funzionario di polizia non sta commettendo, no, un'irregolarità, non sta andando contro la legge, perché non è no, che quello è un altro discorso, no. Come no, certo che commette un'irregolarità. No, quello non è detto che commette un'irregolarità, non è detto, dipende se segue la legge o no. Cosa che era assolutamente rispettoso delle leggi. Vabbè, questo lo vedremo, però questo lo decide, c'è un'inchiesta in corso. Io mi attengo a quello che so e i fatti che so. Sì, no, ma questo lo sappiamo, lo decide il giudice minori. Adesso stiamo partendo dal presupposto che non sappiamo se c'è stata una violazione delle procedure. No, neanche il giudice dei minori, vi correggo, secondo l'articolo 403 civile può essere la polizia una pubblica autorità a decidere. Non deve avere il visto del giudice. Non deve neanche passare per sì, il però ripeto, io non entriamo in questi dettagli, no. La telefonata lei non la considera grave, mi sembra di capire che la telefonata secondo lei è una cosa di buon cuore. È arrivata da questa persona, che se questa brasiliana era veramente, e non vedo perché no, la fidanzata di un amico di Berlusconi. Vabbè, comunque quindi conosceva Berlusconi. Sì. Quindi ha avuto la possibilità di arrivare a Berlusconi e chiedergli un aiuto per una persona in difficoltà. Ripeto, Berlusconi non ha comunque violato nessuna legge o con la sua presenza e autorità imposto la sua volontà al povero poliziotto che stava ricevendo la telefonata. Io non vedo queste irregolarità, però quello che invece la gente non vede di Berlusconi, perché tutti lo odiano, è la bontà. Cioè, il mondo è diviso in due. No. Chi lo odia e chi lo ama. Chi lo ama, lo ama a ragion veduta, perché io ho visto con i miei occhi queste azioni di cui parlavamo prima, sì, di grande generosità, cioè come me ce ne sono miliardi di persone che possono sottoporre, e poi però, tutte le persone che incontrano, sì, ma qui il problema, qui il problema dell'amore, esatto, no, la questione non è in ballo, la questione non è in discussione la questione della generosità, cioè in politica queste categorie non esistono, la generosità, l'amore, queste cose qui sono delle categorie che non dovrebbero esistere. Sento un'ultimissima cosa, sa che anzi lo dico a Parenzo, la comunità egiziana a Roma è abbastanza arrabbiata per questo, sembra che vogliono addirittura denunciare Berlusconi, se è vero poi che ha fatto questa dichiarazione su Mubarak. A che punto è del viaggio, onorevole Carlucci? No, io non credo. È già arrivata? È già arrivata, no, lei? È già arrivata a Roma? Sì, sono arrivati in questo momento. Io non credo, io credo quello che dice Berlusconi, è vero che il nome di Mubarak o presunto tale parentela l'abbia fatta la ragazza. Però, dato che siamo in conclusione, posso dire una cosa? Sì, come? Non è che se una storia del genere, esce subito fuori il nome della Boccassini e sulle indagini che riguardano Berlusconi vengono violati, guardi, tutti i segreti istruttori, il giorno dopo ci sono nomi e cognomi di tutto quello che è successo, in questo caso è stata violata la privacy di una minorenne, di questo non si dice niente. No, si di dice, si dice. Di Fini, che era indagato e che anzi è stato indagato il giorno stesso in cui gli è stata chiesta. Vabbè, adesso però il paragone, però. Io però il paragone su. Non si dice mai questo. No. Ci sono giornali che lo dicono, che lo scrivono. I giornali di Berlusconi lo dicono, tutti gli altri tacciono. Va bene, grazie. Addirittura i giornali hanno sempre addirittura detto archiviata la vicenda di Monte Carlo, mentendo, sapendo di mentire, va bene? Dopodiché che magari sarà tutto scritto, probabilmente visti i rapporti di Fini con le procure sarà così. Addirittura i rapporti di Fini con le procure. Sì. Va bene, grazie, 20:12, grazie onorevole Carlucci, abbiamo la pubblicità. Everybody bunga bunga party! Siamo di nuovo in diretta, caro Parenzo, 20:14, 800 24 00. Stava per bruciare la zucca, Cruciani. Sono cose che succedono. Cos'è? Che c'è? Grillo collegato? No, questa no, è... sto facendo la pasta con la zucca e il gorgonzola. Non mi dire così. No, ma io alle 8:15 poi mi fai soffrire. Sì, per un grande cuoco, come mi fai dire. Soffrire per tre quarti d'ora poi. Dove andiamo? Direi di andare a Genova da Luciano. Buonasera. Ah, Genova, dove ci sarà la festina tra un po', eh? Dove ci sarà, sì, almeno così si legge, la festa di compleanno di Rubi dei 18 anni. Luciano, dica. Sì, buonasera. Buonasera. Scusi, intanto mi fa piacere che la Carlucci considera Berlusconi come Sai Baba. Io credo che lei sappia. O come Achille Lauro, addirittura. No, come Sai Baba, che è diverso. Sai Baba è un santone che riceve tutti dai fedeli i bigliettini, le fotografie. E poi sì, no, tra l'altro quest'idea, mi scusi un attimo, Luciano, quest'idea di Berlusconi che riceve i bigliettini, eccetera. Sì, va bene, per carità, insomma, io non ho mai, ho sempre parlato di anomalia di Berlusconi e non mi sono mai soffermato su queste cose. Non è che uno la deve dare così per scontata, cioè il fatto che ci sia gente dappertutto che dà i bigliettini a Berlusconi per poi trovare soddisfazione, cioè mi pare una cosa un po' folle. Certo, ma io mi riferisco a Carlucci che lo considera un secondo Sai Baba, se non un primo. Io, mi scusi, quando era morto il Papa e facevano tutte le fumate nere, io dicevo aspettano che Berlusconi prenda i voti perché vuol fare il Papa lui. Fino al Papa non ci siamo arrivati. Non lo so, comunque quello che volevo chiederle è questo. Io ho 74 anni, mi piacciono le donne, sì, e soprattutto quelle giovani. Sì. Però perché a me devono dare del pedofilo se faccio il filo a 18 anni, 19? No, 19 non le danno del pedofilo. E anche a 19 si danno del pedofilo. Prima peggio ancora. Come Parenzo? Prima di 18 anni, se uno ha 72 anni fa il filo a una di 19, io lo definisco un po' un porco, però per carità, poi va tutto bene. Ma per l'amor di Dio, con rispetto, io lo dico, con rispetto e amicizia, però se io faccio il filo a una di 17 anni, dipende, se l'ho considerato un pedofilo, un porco, giusto? Vabbè, insomma, diciamo un vecchio porco. Berlusconi non è nella mia stessa categoria a questo punto. Guardi, non è vecchio. Veramente su Berlusconi hanno utilizzato epiteti anche più pesanti di vecchio porco, devo dire la verità. No, per l'amor di Dio. La parola porco fu utilizzata nei primi giorni dopo la vicenda di Noemi da The Gad Lerner, se non sbaglio, certo, no? Certo, però nel suo blog. Dire io, comunque è assurdo che io faccio un filo al 17enne e mi danno del pedofilo. No, io, 17enne, quando... lei no, è meglio che non si avvicini. Certo, 18 anni, diciamo, la cosa non è meravigliosa, ma certo, è evidente, esatto, che ci può essere anche il consenso, diciamo. Esatto. In realtà anche in un'età minore ci deve essere il consenso. Però lei, certo, quanti anni ha, Luciano? Mi scusi. Io 74 più o meno. Ecco, voglio dire, io credo che lei dovrebbe un po' alzare il consiglio. Quello che doveva fare l'ha già fatto. No, quello che c'entra, Parenzo, ognuno fa quello che vuole. È una provocazione la mia, mi scusi, dottor Cruciani. No, certo, però. Quello che volevo dire io, da quando è uscito la questione Rubi, non ho ancora sentito un giornalista, una persona qualsiasi dire Da lì, ma è un pedofilo. Però mi scusi, Luciano, si è sempre escluso fino adesso che Berlusconi abbia avuto rapporti sessuali con una minorenne, insomma, siamo chiari su questo, perché sennò altrimenti perché altrimenti stiamo parlando proprio di altre cose che non riguardano eventuali rapporti sessuali di Berlusconi con questa ragazza. 20 e 18, traffico, torniamo subito. Francesca da Napoli, Veronica da Livorno, Ilario da Roma, non bruciare la zucca, Parenzo, a tra poco. Africa, bunga bunga con Lele, bunga bunga con Fede, se non stai attento vai in galera, per colpa dell'Africa. Parenzo, sai la cosa più incredibile poi di tutta questa vicenda? Perché quando cominci a chiamare i protagonisti diciamo del sottobosco che hanno poi fatto scoppiare il caso, e sto parlando appunto di questa brasiliana, come della ragazza a cui Rubi ha sottratto 3.000 euro eccetera, poi ti passano gli avvocati, siamo a questo livello, i quali ti dicono, gli avvocati o le persone stesse coinvolte, beh insomma sì, noi facciamo interviste però a pagamento, cioè questo è l'ambiente insomma di cui stiamo discutendo. D'altra parte, come posso dire una cosa nel contropendenza, tu forse sì, non sarai d'accordo, ma d'altra parte come dare torto a queste persone che hanno vissuto per anni magari in un cono d'ombra alla ricerca, certo, di qualche piccola, certo, fortuna? No, sono d'accordo invece. Perché e perché no? Condanniamo le ragazzine che vanno a fare le veline, e questi qui adesso dicono abbiamo la notorietà, dateci ritorno. Certo, dorati. Certo, ma io sono quindi assolutamente d'accordo. Molto laico, non sono, non li tu hai fatto bene a ricordarlo, a dirlo. Che io non li condanno, fenomeno. Non li condanno nella maniera più assoluta. No, l'avevo capito, figurati. Però fanno bene, ecco, fanno bene a chiedere soldi, perché sono entrati nello star system, hanno capito come gira il mondo, quindi sì, bene. È chiaro che nessuno li cercava prima, adesso qualcuno li cerca per interviste, dettagli particolari e richiedono quattrini. Però a me sulla vicenda di Mubarak, su cui è tornato poco fa anche Bocchino in un'intervista alla 7, dicendo se naturalmente è provato che ci sono state pressioni e Berlusconi ha parlato di Mubarak in quella telefonata, Berlusconi si deve dimettere, perché dice ovunque il premier che fa delle pressioni si dimette, in ogni parte del mondo il fatto che un premier usi il nome di un capo di stato per sottrarre al normale iter delle leggi una persona che ha commesso un furto porterebbe alla dimissione, ma le mie valutazioni le farò solo al termine di ciò che stabilirà la magistratura. Beh, insomma, il mantra dei finiani in queste ore è questo: siccome c'è la magistratura che indaga, se ci sono state le pressioni lo accetterà la magistratura, se dovesse uscire fuori una cosa del genere Berlusconi si dovrà dimettere. Sì, però guarda, questa qua è grande, in questo c'è grande prudenza, devo dirti la verità, grande prudenza. Beh, e tatticismo. Sai cos'è strano? Cosa? Sì, probabilmente, però, siccome non si ricordava qual è il nome del re del Marocco, del presidente del consiglio del Marocco, ha detto Mubarak. Tu dici no. Ma sì, quando si dice ma sì, dica Mubarak, ma io sono marocchina, ma sì, di Mubarak, chi se ne frega, sempre africani sono. Secondo me è andata, no, è la cosa ancora più divertente, è probabile, perché non c'è logica. Sì, non c'è logica, perché si chiama perché Mubarak, il re del Marocco, come si chiama? Buda, no, di Mubarak, no, Mubarak è meglio. Sì, è andata così. Però io sono curioso di capire, ma poi alla fine Mubarak ha nipoti o no? Sai a chi lo chiedo? Al presidente dell'associazione egiziana di Roma e del Lazio, che si chiama, è un signore molto distinto, che si chiama geniale, questa, Adel Amer. Buonasera. Buonasera. Signora Amer, il presidente Mubarak, il presidentissimo Mubarak, ha nipoti o no? No, aveva un nipote, poi non c'è più. Cioè è morto? Cioè, hai un nipote maschio o morto? Doppia gas. Beh, insomma, il signore che ride, non so perché ride. No. Premier, ma non ride su Mubarak. C'è da ridere se questa è questione. Non c'è da ridere. Ma non sta ridendo per Mubarak, signora Merle. Doppia gaff di Berlusconi. Figuriamoci, non stiamo ridendo su. Beh, è una storia che un po' fa ridere, però, signora Merle. Ridere per noi è triste. Perché è triste? Certo che è triste. Perché è triste? Perché uno ha la sua opinione. No, perché mi spieghi perché è triste per voi, certo, ma me lo spieghi. Non so. Perché è un coinvolgere una persona. Persona del genere in questa situazione per me è triste. Cioè lei dice a Berlusconi se è vero che ha coinvolto Mubarak. Quali sono le voci che circolano in Egitto da questo punto di vista? E fatti l'abbiamo visto tutti quanti, io, voi, tutti quanti. e il presidente Vovare, che è stato messo in questa situazione ingiustamente. E noi condanniamo. Voi condannate. E poi riferite, dite anche che Mubarak di nipoti non ne ha e adesso in questo momento non ne ha, ce n'aveva uno che è morto. Detto Mubarak non ha nipoti, aveva un nipote e non c'è più. Non c'è più. Senta, ma lei che è il presidente dell'Associazione Giudiziaria di Roma e del Lazio, è riuscito a capire se in Egitto questa cosa nelle alte sfere ha provocato qualche sommovimento, qualche mal di pancia? Guardi, noi siamo in questi giorni, abbiamo l'elezione del Parlamento. Poi figurati un po' se uno tira l'acqua al suo mulino. Cioè perché una notizia del genere fa aliba qualcuno a strumentalizzare questa faccenda. Certo, perché lo abbiamo detto prima, Mubarak e Berlusconi sono molto amici, no? Sì, sì, d'accordo, al di là di questo. Ma come se lo spiega? Come se lo spiega lei questa cosa qua? Come se la spiega questa cosa? Io non ho spiegazioni. Cioè, uno è molto amico di Mubarak e lo mette in mezzo su una cosa del genere. Cosa della vita. Io questo un tradimento, no? No, non posso dire niente. Io non posso dire niente. Non io può io dire soltanto, niente. Soltanto. Quello che ho detto prima, lo dico adesso. Sì. Il presidente Mubarak, una persona va rispettata. Rispettata. Una persona per bene. Per bene. Corretta. Sì. Non vogliamo che essere mettere in questa situazione. Vabbè. E comunque poi non ha nipoti, per cui questo non ha nipoti. La ringrazio, buona serata. Prego, buona 20 serata e 26, voi. Capito, buona. Parenzo, non ha nipoti, niente, nessun nipote. La doppia gaffa, se fosse vero che poverino avendo perso è anche morto, certo. Però Franco da Terni. Buonasera. Buonasera. Buonasera, dica. Vorrei esprimere anch'io la mia opinione in merito a questa discussione. Questo l'avevamo capito che voleva esprimere la sua opinione. Sì, d'accordo che l'avete capito. Ma soprattutto non riesco a capire i cattolici come fanno ad assorbire questo diluvio di notizie. Sul bunga bunga, dice. Che vengono date e che praticamente fanno vedere una chiesa silenziosa. Una chiesa che non prende posizione. Però mi scusi Franco, l'onorevole D'Alema nei giorni scorsi ha detto: mi auspico un intervento della chiesa, no Parenzo? Insomma, questo mi è sembrato francamente eccessivo, perché D'Alema in altre occasioni aveva bastonato la chiesa per ingerenza, adesso vuole invece che intervenga sulla questione di Berlusconi. Questa francamente mi pare una scivolata. Tirare per la giacchetta, anzi per la tonaca, il Papa, l'intervento il clero, del Papa su una vicenda di questo tipo mi sembra un po' assurdo, no Franco? Dunque lei che cosa... No, un intervento del Papa sulla vicenda del Papa, insomma, che cosa del mondo cattolico? No, siccome ma già siccome c'è stato, facciamo una parte del mondo cattolico. Siccome ho visto delle interviste all'uscita di una chiesa, per quello che possono ovvero rappresentare del mondo cattolico, le quali in queste interviste si diceva: vabbè, ha smentito, ha detto che era una persona di cui si interessava, voleva semplicemente dare un aiuto e quindi non vedo che ci sia di male. Ora è un infantilismo fortissimo questo qui, no? A un certo punto di vista il silenzio anche delle gerarchie. Ho capito, ma che cosa dovrebbero dire? Lei è andato però a parare sullo stesso punto di cui discutevamo prima, cioè cosa dovrebbero fare le cosiddette gerarchie ecclesiastiche secondo lei? Ma secondo me dovrebbero dire che certi comportamenti, certe frequentazioni, certe storie che affiorano in continuazione non sono compatibili con il dichiararsi cattolico. Franco, credo che in un modo o nell'altro, anche in vicende precedenti la cosa sia uscita, ma devo dare la parola alla borsa, torniamo subito. Ce lo insegnò Gheddafi, quanto è importante la vi, canta canta con Lele, balla balla con Fede, se non stai attento vai in galera, per colpa dell'Africa, bunga bunga con. Eccoci la zanzara 20 e 34 800 24 00 24 scusate Sant'Anchè. Berlusconi rappresenta le caratteristiche di tutti i maschi del mondo, non cioè, soltanto di quelli italiani. Beh, credo che insomma che l'Italia sia un paese intimamente maschilista, non credo che debba essere io a denunciarlo o a dirlo. Beh, Parenzo, questa non è male, perché... Berlusconi... È una disperata difesa, intelligente, dovrebbe essere una disperata difesa. Ma questa è la spiegazione di Berlusconi che vede gli uomini, le donne in orizzontale, solo in orizzontale? Esatto. Era questa? Sì, sì. Ce la vogliamo ricordare quella là? Ce l'abbiamo in archivio? Tiriamola fuori dagli archivi. Quando era nella destra, con Storace. Sì, eccola. Ho detto che il voto più inutile che si possa esprimere, e mi sono rivolta alle donne italiane, è quello per Silvio Berlusconi, perché le donne italiane devono avere, come sono certa che già avranno, la percezione che per Silvio Berlusconi le donne sono in posizione orizzontale mai verticale. E la spiegazione, ve la voglio fare risentire, perché a due anni di distanza, a più di due anni di distanza, la spiegazione della Santanchè è questa, è una cosa pazzesca, sentite. Berlusconi rappresenta le caratteristiche di tutti i maschi del mondo, non cioè, soltanto di quelli italiani. Beh, credo che insomma che l'Italia sia un paese intimamente maschilista, non credo che debba essere io a denunciarlo o a dirlo. Capito? Cioè, sì. Una disperata ricerca no. di coerenza. Sì, insomma, in realtà lì c'era una... intelligente ricerca di coerenza. Sì, lì c'era una. E tutti una... i maschietti hanno questo desiderio di essere dei grandi amatori. In realtà quindi... lì c'era un esplicito attacco nei confronti di Berlusconi che vede le donne in orizzontale. No? Quando gli si rimproverava, quando si chiedeva la Santanchè, ma insomma, lei non ha mai voluto. Io non ho mai avuto a non che fare. Non gliela darò mai. No, una sì, volta dice io no. Se esatto, la dimentichi esatto. Perché non gliela darò mai, non gliela darò mai. Sempre la Santanchè, a proposito di Nicole Minetti, meglio l'igienista dentale di Fini. Ma io capisco l'opposizione feroce, capisco l'opposizione feroce a Fini, però Nicole Minetti non è meglio di Fini. No, no, questo no. È meglio un igienista dentale di chi nella vita non ha mai lavorato un'ora, perché vede il suo capo. Dire? Ma voglio dire, io diffido un po' da quei politici che nella vita sono stati mantenuti dagli italiani, che non hanno lavorato un'ora, che hanno visto la politica come stipendificio e fanno politica non per credo, sì, ma perché a fine mese non fa guadagnano male. Quei soldi che se avessero dovuto nessuno. Confrontarsi col mercato del lavoro, sia certo che lo stipendio da Presidente della Camera o da deputato non l'avrebbero mai guadagnato, neanche nei loro migliori dei sogni. Abbiamo anche questo, sempre Santanchè, a proposito della vicenda delle telefonate, la questura, eccetera. Questa ragazza è stata fermata, erano circa le ore 18, è stata rilasciata in collocamento a una persona maggiorenne incensurata alle 2 della mattina, alla faccia delle pressioni del presidente Berlusconi, che devo dire conta pochissimo se tengono una persona dopo che lui chiama per dire e stare al linguaggio vostro per fare pressioni, la tengono 6 ore. Anche qui c'è più o meno il tentativo di spiegare la telefonata di Berlusconi, che non ha nessun potere, anche Berlusconi lo ha detto, ma in realtà non è questione di avere poteri, sarebbe una follia se avesse potere su un iter, no? Cioè sarebbe una cosa fantascientifica se Berlusconi avesse qualche potere sull'iter che parte dall'arresto di una persona, dal fermo di una persona fino al rilascio, cioè, per cui mettersi a discutere su quanto poi concretamente Berlusconi abbia potere è ancora più ridicolo, insomma. Però è il classico, lei non sa chi sono io, capito? Questo è il meccanismo. Beh no, in questo caso Santanchè potrebbe dice, essere questo la Santanchè no. dice in realtà no, Berlusconi non conta niente, siccome questa ragazza è stata tenuta 6 ore, lei pensa che sia stata tenuta tanto evidentemente, allora questa è la prova che Berlusconi non ha nessun potere, perché non conosce la legge Bossi-Fini evidentemente, perché anche questo è un altro tema di discussione, cioè questo è un altro punto, la legge Bossi-Fini ha delle regole molto precise per quanto riguarda gli immigrati, la signorina oggi compie 18 anni e apprendiamo dai giornali che in base alla legge Bossi-Fini questa potrebbe essere espulsa immediatamente dal paese. Potrebbe essere espulsa. E quindi rivedono la legge Bossi-Fini, allora la rivedono se la ritengono inumana il partito dell'amore, perché il partito dell'amore, che non è quello di Battiato che cantava la stagione dell'amore viene e va, siccome questi sono liberali e amorosi a corrente alternata a seconda di chi è l'interessato. E se rivedono la legge Bossi-Fini e salvino migliaia di immigrati giovani senza lavoro che invece vengono presi e rispediti nei loro paesi. Questo è un altro punto. Sì, secondo me tutta la polemica adesso sulla legge sull'immigrazione è un po'. Beh, però ci sta, perché sì, ci sta tutto, per carità. E andiamo a sentire Bocchino, appunto, alla 7, al telegiornale di Mentana, Pogba sulla polemica del giorno, che in realtà è schermaglia, in cui i leader del PDL dicono Fini deve decidersi o altrimenti decida di staccare la spina al governo, decide di aprire la crisi, e Bocchino risponde in questo modo. Certo, se c'è stato da parte del capo del governo italiano l'uso del nome di un capo di Stato e di una finta parentela per sottrarre all'iter previsto dalla normativa vigente una persona che aveva commesso un furto, è un fatto che in qualsiasi posto del mondo porterebbe alle dimissioni. Ma questo poi è una valutazione che andrà fatta immediatamente dopo che la magistratura ci ha spiegato che cosa è successo in maniera definitiva. E questa è la posizione, diciamo, in queste ore dei Finiani, molto prudente, la magistratura, eccetera, se fosse solo avere le pressioni, naturalmente le dimissioni sarebbero inevitabili. E invece sulla questione politica posta oggi da dirigenti del PDL. Questo dicono in retroscena e ad oggi non ho visto alcuna smentita, quindi Fini può anche pensare, credo che sia legittimo, che nel caso in cui emergesse dall'inchiesta della magistratura che il Presidente del Consiglio ha utilizzato il nome di un capo di Stato straniero nel tentativo di far uscire dalla questura una persona che doveva essere fotosegnalata e controllata perché aveva commesso un furto, sarebbe un fatto sicuramente grave dal punto di vista istituzionale e politico. E sempre su quello che è accaduto in questura, 20 a 41 800 24 00 24, dove andiamo? Direi a Napoli da Francesca. Buonasera. Ciao, sono Francesca. Prego. Io, in merito alla questione di Rubi, la cosa che io sono una giovane dirigente del Partito Democratico, sì, la cosa che mi ha fatto più sorridere è come Bersani riesce, il mio segretario, riesce ad essere così combattivo, riesce a farmi vedere una maggioranza, così, un'opposizione così compatta riguardo a temi che sinceramente non interessano minimamente i cittadini italiani, e poi quando si parla di fare un programma dei temi importanti di questo paese, di fare opposizione sulle cose concrete, è sempre così silente ed è sempre così confuso. A me tutta questa questione, cioè io ho 20 anni, figuriamoci, e se non sto e se non voglio il presidente Berlusconi come mio presidente del Consiglio è anche per questi motivi, però sinceramente non è che mi scandalizza più di tanto quello che è successo, lo conosciamo e lo conosco benissimo, perché comunque queste vicende alla fine giovano, il Partito Democratico le può prendere addirittura in esempio per fare, cioè, secondo lei giovano più a Berlusconi queste cose? Secondo me giovano soprattutto a queste ragazze, che alla fine sappiamo benissimo come funziona, che diventeranno loro le superstar. Noi continueremo a stare miseramente all'opposizione e Berlusconi continua a governare, quindi non giovano proprio a nessuno se non alle ragazze stesse, perché sappiamo che la D'Addario e Letizia e Noemi Letizia sono nate da queste questioni. No, questo non è sbagliato. Francesca, le faccio ascoltare, resti con noi quello che dice il sindaco di Verona Tosi. Rubi farà i soldi, lavorerà a Mediaset, frase di oggi, via. Adesso sempre ricerca in archivio, via. Ma Rubi secondo me adesso si farà un pacco di soldi, perché fra il libro che ti ha detto che vuole scrivere, le interviste eccetera, magari andrà a lavorare per Mediaset. Ha capito Francesca? Assolutamente, ha ragione, perché così magari andrà a finire, oppure ce la ritroveremo come qualche consigliere provinciale o consigliere regionale. Questo mi sembra adesso, penso che lo possiamo escludere. È una cosa di assurdo, però purtroppo così è. Io. Senta, lei che fa nella vita? Studente? Cosa fa? Io sono studentessa universitaria, sto al secondo anno di lettere. Ma che significa dirigente del Partito Democratico? Che significa? Che frequenta una sezione, che è capo di qualche sezione? Sono nella segreteria del Partito Democratico della mia città. E poi sì, e che città è? Napoli o provincia? No, sono di Acerra. Acerra. Mitica, Acerra. La mitica Acerra dell'inceneritore, sì. Ebbene sì. E attualmente sono proprio, è stato proprio. Ecco, ma lei di che, non so che magari non si interessa di queste cose, ma di che corrente del Partito Democratico è? Di che. Con chi sta? Diciamo che ho votato Bersani. Ma cioè, Bersani. Ecco, ma lei che ha 20 anni. Sono delegata regionale proprio della del Partito Democratico. Ecco, ma vede Bersani come leader del futuro oppure qualcun altro? Allora, attualmente purtroppo non lo vedo come leader del futuro, ma non perché non lo considero il mio segretario. E come mai? Perché vede che manca in qualcosa, carisma, leadership. Nel programma, ma ci rendiamo il programma, perché... Francesca, il programma in politica. No, nel programma, nel senso proprio che io faccio parte di una generazione di 20 anni e io vivo con ragazzi che magari la maggior parte non si interessa di politica. Però come fa ad interessarsi se non riesce a comunicare niente alle nuove generazioni? Mi parla di è contro la riforma università e poi mi mette nelle liste parlamentari i baroni dell'università. Deve fare delle cose che una cosa importantissima per me, che dovrebbe essere lui l'artefice, è una battaglia per la riforma elettorale che non fa. Sembra che ha faccia comoda a tutti, ogni tanto lo dicono, però in modo sempre. Però poi sono divisi su quello che sulla riforma elettorale da fare. Beh, io sono convinta che fa bene anche a loro. Che conviene anche al Partito Democratico, anch'io sono convinto di questo. Arriva una minorenne ed è capace di andare in tutte le TV ad urlare, a fare mozioni di sfiducia. Poi quando si deve fare una vera battaglia per la riforma elettorale, sì, si deve fare, non si deve fare. Si parla di figli, ma ci rendiamo conto, figli. Io sono nata in una famiglia di sinistra, mi hanno sempre detto che i fascisti non si devi fidare fino alla morte. Adesso questo non può essere un argomento. Non voglio dire questo scherzando, però io non mi posso andare a fidare di una persona così ambigua e vedo che il mio segretario va pure a parlare con questo tipo. Vabbè, adesso parlare non mi sembra un problema. Lei dice però che insomma comunque fini resta uno di destra, insomma credo che che lei volesse dire una cosa del genere, insomma, e non possiamo pensare di fare un'alleanza con Fini. La ringrazio molto, Francesca. Andiamo a sentire il traffico, poi torneremo con Rosario da Salerno, Elena da Roma, Enrico da Siena, dove si trova Parenzo, Veronica da Livorno, Antonio da Brindisi. 800 24 00 24. Canta, canta con Lele, balla, balla con Fede. Se non stai attento, vai in galera. Dell'Africa, bunga bunga con le... Bene, 20:48, parte finale della Zanzara del 1 novembre, 800 24 00 24, e andiamo a Salerno da Rosario. Buonasera. Dica. Allora, io salto i preamboli, l'ascolto quasi sempre tutte le sere, sono affezionato. Credo che mi dispiace che lei fa la fine che stanno andando di far fare a Santoro. Cioè, in che senso? Perché, scusi, in che senso le dico? Lei, a me piace molto la musica, quella che hanno fatto gli Idilliri, Bunga Bunga, con queste che ha messo ultimamente, in queste due, molto belle. Ma credo che prima o poi ci sarà qualche telefonata che metterà fine a qualcosa che a me dispiace molto. Cioè, in che senso? Ci sarà qualche telefonata che metterà fine a che cosa? Che farà in modo che la sua trasmissione sia riorganizzata in un certo modo. E per quale motivo ci dovrebbe essere questa telefonata, soprattutto da parte di chi la telefonata? Parenzo, qui... Lei lo sa che sta sulla radio di Confindustria. Ma lei ha delle cose. Allora, sono la radio di Confindustria, allora? Cioè, io apprezzo la sua libertà, sono un uomo libero pure io, quindi non allora, assolutamente. Però, perché ci dovrebbe essere qualche telefonata? Mi scusi, non ho capito bene. Io ho questa sensazione, poi è una sensazione che ci sarà qualche telefonata che per chiudere questa trasmissione ridimensionerà il modo con cui lei conduce questa trasmissione, cioè il modo un po' scanzonato, un po' irriverente, queste cose. Moltissimo, io le dico, guardi, come diciamo spesso insieme a Parenzo, è il mercato che decide, cioè non è solo gli anni si è guadagnato questa cifra di libertà con gli anni e soprattutto con gli ascolti, qui noi, per carità, poi non è è solo il mercato che decide, ci sono anche altre cose, ma noi siamo qui a disposizione, non c'è nessun problema, Rosario, non ci sono telefonate segrete o cose di questo tipo, ci sono decisioni che vengono prese dalle persone che hanno responsabilità, in particolare il direttore di questa radio, che ha tutta la libertà di rimuovere oppure di mettere alla conduzione vorrei capire una cosa, mi faccio capire anche a me. Allora, la radio di Confindustria è comunque, cioè Marcegagni è il capo il presidente di Confindustria. Marcegagni è un pochettino, ha ragione secondo me, anche se premette che sono di centrodestra, quindi comunque, vabbè, ma lasci perdere questo, voglio premettere, Marcegagni ha ragione quando dice che ci stiamo occupando di tutt'altro. Vabbè, fa delle critiche al governo, in realtà non è che parla delle trasmissioni televisive o radiofoniche, no, fa delle critiche al governo, che c'entra con la zanzara, mi scusi, che non c'è andato nessuno tranne il presidente della Repubblica, che vabbè, ma lasciamo perdere questo, fa delle critiche al governo, dunque, ecco. Quindi credo che la radio di Confindustria, che comunque è legata a Confindustria in qualche modo. Sì, certo che è legata. Allora? Ecco, prima o poi, insomma... Cioè, lei dice metteranno un barboso programma di filosofi, di scienziati allora economici. Allora spegneremo Radio 24. Lo posso, appunto, lei dice, lo posso escludere però, caro Rosario, posso escludere che questo avvenga, insomma, glielo posso dire molto... La posso rassicurare su questo. Era questo che volevo dire. L'ultima che ha messo, quella di Elio e le storie tese, sì. Quella lì. Bellissima, bella, eccezionale. Però vedi Parenzo, il punto qual è? È che Rosario è una persona di centrodestra, molto, con senso dell'umorismo. Sì, molto aperto, dice, no, questa Elio e le storie tese è eccezionale, anche il ridillo, la canzone sul Bunga Bunga è eccezionale. Io sono un uomo. Io sono una che va che ma lei ha capito cos'è il Bunga Bunga? Io sono un uomo. Ha capito cos'è il Bunga Bunga? Sì, l'ho capito benissimo. Ha capito, Io sono di Salerno. Tu ci credi? E che c'entra che è di Salerno? A Salerno c'è una concentrazione di Bunga Bunga, All'intorno, insomma. Lei... Abbiamo capito tutti che cos'è, è quello che piace fare a tutti gli uomini. Chi invece non fa il Bunga Bunga? Che sono quelle persone, tipo, se posso dirlo, tipo Marrazzo, tipo qualche altro. No, però, guardi che da quel punto di vista forse si sbaglia. Anche io non ho mai fatto fino ad oggi Bunga Bunga. Non mi posso permettere, non credo. Comunque. Lei è della scuola Lener che dice: beh, insomma, sì, tanto Berlusconi va con le donne e non con i trans, dunque bisogna salvarlo. Insomma, non bisogna salvarlo, è una cosa naturale. È normale invece andare con i trans, è innaturale, da bestie. Cos'è? No, io non ho nulla contro chi è. Magari è sempre lo stesso ragionamento. Io non ho nulla contro quelli. Ma è Bunga Bunga, tra l'altro. Quindi. Sì, tra l'altro, è sempre Bunga Bunga. Mi scusi, Rosario. Sì, vabbè. L'uomo, diciamo, è sempre quello. È sempre Bunga Bunga, Rosario, lo dicevo prima. È diverso. Il posto è quello, amico mio. Il posto è quello lì. Quindi sempre Bunga Bunga. È sempre Bunga Bunga. Quello che intendo io è istituzionale. Ho capito. Quello istituzionale. Vabbè. Grazie, Rosario. Grazie a lei. Buonasera. Sabina, provincia di Latina. Buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Senta, io devo dire una cosa. Sto fremendo sulla sedia in macchina da quando ha parlato la Carlucci. Io trovo questo fatto della telefonata del Presidente del Consiglio un fatto gravissimo. Non dal punto di vista etico, morale, di cui non mi interessa, dal punto di vista politico. Secondo me questo è un atteggiamento a cui noi stiamo avendo una sorta di assuefazione, un sistema che non è Berlusconi, ma che secondo me contribuisce a creare il fatto che la politica sia un fatto privato, diventi un fatto privato. Uno entra in politica per sistemare gli amici, per fare favori a se stesso, agli altri, allora si permette di abusare del proprio potere telefonando per una persona che poteva essere una congiunta o meno, questo a me non interessa. Io sono un'insegnante precaria e come se avesse chiamato il preside della scuola per non farmi bocciare un alunno. Io lo trovo un fatto gravissimo. Tra l'altro Berlusconi questi atteggiamenti di privatizzare un po' il fatto politico ce li ha spesso, sì, ma al di là della, invita della... a casa sua, sì, sì, no, invita politici, va al compleanno di Putin con fare invece che sembra, no, ma ho capito, questo qua è Berlusconi da come lo conosciamo da 15 anni. Sabina, io sono convinto di una cosa, che tra l'altro, se Berlusconi voleva informarsi di quello che avveniva in questura, questo è legittimo, perché insomma trattasi, sembra, di una conoscente di Berlusconi. Berlusconi poteva anche tranquillamente informarsi. Informarsi, Parenzo, correggimi se sbaglio qua. Sì, uno può anche informarsi, ma non lui, attenzione. poteva informarsi, ma non telefonando direttamente lui, si poteva informare su quello che stava avvenendo attraverso qualcun altro. Questo è certamente sul filo, ma questo diciamo che può essere leggermente più giustificato. La telefonata, ripeto, di Berlusconi al gabinetto della questura, quello mi sembra francamente di dare ragione all'ascoltatrice che ci chiama dalla provincia. Sai cosa diceva il grande avvocato Agnelli? Che diceva? Lo stalliere del re deve sempre sapere cosa fa il ladro di cavalli. Però l'avvocato chiaramente aveva bene in testa che lo stalliere gli era utile, lo stalliere del re, quindi il suo uomo di fiducia, sì. È normale che dialoghi con il ladro di cavalli, sì. Ma lui non si sarebbe mai sporcato le mani. No. Veronica, e quindi questo è un grande insegnamento di una grande borghesia, anzi di una grande nobiltà che ormai non esiste più. Veronica da Livorno, non ce la facciamo. Sporca le mani con tutto. Dici? Tu hai le mani sporche dalla zucca? No, invece sono quasi pronto, sì. Zucca a domani, Zola, a domani, 18:30, la zanzara. Torno dalla mia minorenne. Ciao. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.